24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Io vi chiedo di fare poche ferie. Non solo entusiasmo. No. Ora capisco di non essere stato particolarmente incisivo fino ad ora, ma che il primo segnale di vita arrivi sulle ferie, voglio dire, essendo in streaming si passa male, ragazzi, io ve lo dico, cioè evitiamola sta cosa perché. Io questa cosa delle ferie veramente la approvo, la condivido, la sottoscrivo, la appoggio, la sostengo, la sponsorizzo. Infatti domani andrò in ferie, ve lo dico. quindi non mi avrà Matteo Renzi, ma tanto se si riferiva ai senatori. Brutto cretino d'un Milan. Ecco, appunto. Ma per le ferie? Per le ferie, va bene. E saluto Carmelo Lauricella in regia subito che mi ha salutato così. Saluto Giorgio De Luca che è in redazione, andrà in ferie anche lui domani, credo. E perché c'è un Matteo Renzi combattivo, ormai è chiaro, si passerà il Senato l'agosto qui a votare, tutti inchiodati sugli scranni, e lui dice non è un male stare ad agosto a lavorare. E poi aggiunge perfido, tanto sono convinto che gli italiani saranno ben felici di vedere i senatori lavorare ad agosto. È perfida, questa è perfida. Proprio neanche fosse un rigo del libro della casta di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, neanche loro avrebbero potuto pensare qualcosa di così perfido. Renzi che dice gli italiani saranno felici di vedere i senatori impegnati ad agosto. Va bene, questo è 24 mattino, siamo qui e che dire, secondo voi, vi faccio questa domanda: secondo voi potevo andare in vacanza senza prima farvi salutare un mito unico che conosceremo subito dopo il Parlamento, dopo l'apertura del Parlamento? A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. È colui che invitato a bere il caffè con tutti quanti da Nicole Minetti corrisponde al nome di Albertone Forchielli. Alberto, come stai? Ciao Alina, sto benissimo. Alina, subito. L'esordio. Ciao. Dove sei? Sono a Hong Kong. A Hong Kong. Ancora qualche giorno, poi domenica vado a Singapore per 20 giorni. A Singapore. Poi torno qui a Hong Kong. Poi torno a Hong Kong. E che sì. Clima c'è? C'è l'estate lì? Che fanno? Si lavora? No, la stagione dei tifoni. Quindi c'è. Vengono giù del buio, molti acquazzoni. Però devo lavorare, per cui. Va bene, insomma, non è che se ci fosse il sole mi verrebbe voglia di andare in piscina, sarebbe peggio. Ah, ecco, quindi meglio che piova e che così uno, uno lavora sereno. Certo. Sì, sì. Che ne pensi del fatto che io vado in ferie un mese? Puoi dire quello che vuoi, No, penso che sia normale. Tanto ormai la pubblicità è bassa, capito? Sai fare lì. Tante pubblicità non c'è, perso non vendi pubblicità alla fine della fiera. Per cui, capito, va anche bene che ti togli un po' dei coglioni. Benissimo, vado benissimo. Quindi possiamo dire a Renzi questa cosa, va bene? No, che... sì, con la storia lì della ferie. Però hai visto i senatori, te li vedi il senatore lavorare ad agosto, a Ferragosto? No, il senatore è benissimo, guarda, anche il giorno di Natale, secondo me. Ma questo non risolve il problema. Sì, a me darebbe molta soddisfazione vedere Ferragosto lì, ecco, a sudare su quella roba. Vedi. Un senso sadico. Il senso sadico che molti italiani penseranno in questo momento, no? Di dire, guardalo lì quel senatore come suda. Che sta a Ferragosto, entra, varca la soglia di Palazzo Madama e entra lì a lavorare. Guarda, Mattarellum, Porcellum, Italicum, Democratellum, Porcellinissimus, a quando il ridiculum, ossia ormai questi, capito? Voglio dire, non è che io sia particolare, non voglio fare il punto popolazione del Senato o legge elettorale, però capito, sono 30 anni che in questo paese non si mettono mai d'accordo su niente, ma non si vergognano. Negli altri paesi si discute, poi a un certo punto si chiude, si fa il governo e si fa le riforme. Questo è successo in Germania, 3 mesi fa, hanno fatto 2 mesi di negoziazione, hanno fatto la grande coalizione tra socialisti e cristiano-democratici, punto, chiuso la faccenda e vanno avanti. Noi sono 30 anni che ognuno deve dire la sua, capito? È così. Ma così. Al di là del fatto specifico, capito? Ma ci sarà mai una volta che possono accantonare interessi personali per il bene comune? Questa riforma del Senato, sì. No? Se va bene passa nel 2017. Sì, se va bene. Ed è solamente una roba che serve per assicurare la governance del paese. Ma non tocca le misure economiche. Ma no, certo, mica la riforma del lavoro, del fisco, della giustizia. Capisci che le previsioni economiche del paese per quest'anno era più 0,7. Sono scesa più 0,6, sono scesa più 0,4, adesso sono a più 0,2 a luglio. Secondo te come andiamo a finire a fine anno? Non voglio neanche immaginarlo. Però sulla questione delle ferie... Io sono d'accordissimo che la crisi sta finendo. Ci sono chiarissimi segni di ripresa per il culo. Ecco giusto per... È Padoan che dice l'altro giorno crescita e condizione per finanze pubbliche sostenibili. Ma cosa fuma? Ma cosa aspettano ad arrestare il suo spacciatore? Abbiamo sistemato anche Padoan. Aspetta. Fammi sentire un attimo questa. Fatti sentire questa. La senatrice Bignami, no? Che sulla questione delle ferie, la senatrice Bignami, devi sapere, tu che stai a Hong Kong, è ex del Movimento 5 Stelle, una di quelle che è uscita un po' dissidente, insomma, queste cose qua. Allora, senatrice Laura Bignami. Nella Costituzione è previsto il rispetto della minoranza e quindi, per quello che riguarda le espressioni di culto, no? Tutti i cattolici che la domenica mattina vanno in chiesa, quindi viene leso questo diritto che penso di avere. Quindi non lo so, almeno la domenica mattina e il sabato per gli ebrei. Poi ci sono il venerdì i musulmani, volevo fare questa proposta. Ma l'hai sentita? Cioè, li suggerivano, sotto uno ha detto gli ebrei, fallo risentire, a un certo punto uno ha detto gli ebrei, ecco il sabato, musulmani, e quindi ma dai. Ma questo è un paese dove del Rio va a casa di De Benedetti alle 8 di mattina per sentire il polso del paese, ma dopo con chi aveva appuntamento? Alle 10 con Giuliacci e mezzogiorno con Paola Fox, immagino. No, immagino di no, che avesse degli appuntamenti. Se tu non vada De Benedetti... immagino che avesse appuntamenti più seri, sì, però... Tutte queste prime donne, la Boschi, la Boldrini, che da bambine sicuramente erano campionesse di tiro alla fune. da quanto se la tirano, ho visto quanto se la tirano, c'era un'esperienza fantastica. Ah, ecco, la Bosco. Quindi, oh, oggi Forchielli li sta sistemando tutti per le ferie, Padova, Del Rio, Boschi, Boldrini. Basta, insomma, basta. Dici, ma io voglio dire, ma l'avete sentita la senatrice Bignami? Dice non si può rispettare la domenica, c'è la messa, ma vai alle 7 del mattino a messa e poi vai a votare al Senato dalle 9 alle 20. Ma non si commenta neanche, dai Alino, non si commenta neanche, si commenta. Vai oltre. Andiamo oltre, allora senti però questa, allora Renzi, la questione è, sai che c'è questo tenere duro, tenere le posizioni, hanno votato in un giorno 2 emendamenti su 7.850, con questo ritmo ne mancano 7.848, sentite però Renzi cosa dice, dice un concetto importante Alberto, sentilo perché questo è interessante anche come all'estero la vedono, sentite Renzi. Io vorrei garantirvi che qui non molla nessuno, che quando tu hai la forza di milioni di italiani che hanno detto guarda anche se non mi stai simpatico ti voto perché penso che siamo messi talmente male che paradossalmente rischi di essere l'unica speranza, ed è un paradosso, perché io mi conosco e vi dico che è un paradosso, siccome siamo a questo livello qui, bene, sappiate che quando hai 11 milioni e più di italiani che ti dicono questo è quello che serve al paese, non ci sarà nessun ostacolo in grado di fermarci. Questo è il concetto importante, Alberto. Cioè, Renzi dice, mi votano anche se non mi reputano simpatico perché pensano che io sia l'ultima speranza per il paese. Ma è davvero un po' così, secondo te? Ma, sai, se non riesci a fare le riforme e se l'economia va così, visto che si è fermato anche l'economia tedesca, prima che Padova facesse le sue dichiarazioni, secondo me ci potrebbe anche essere che a ottobre Renzi arriva a capolinea. Se non si ricorda di suonare la fermata, va direttamente al deposito fine corso. Addirittura, ma che, in che senso? Lui guarda che ha l'arma B, cioè dire il capolinea, andiamo a votare, e se hanno votato a lui il 40%, immagino che ancora gli italiani siano disponibili e disposti a dargli fiducia, cioè a dire, a quel punto avrebbe un Parlamento fatto a sua misura, no? Con i suoi parlamentari. Può darsi, però le politiche sono strane, e comunque la gente si sta rendendo conto che è un po', che racconta un po' di balle, che i 100 giorni sono diventati 1000, capito? Si è messo lì a fare dei diktat che sembra il cucciolo di Mussolini, capito? No, addirittura come il cucciolo, sì, il cucciolo di Mussolini, dai! Sì, ma, capito? Per cui un po', capito? Sì, può darsi che ci sia... In effetti io non ho antipatia per Renzi, perché in fondo lo vedo scontrarsi contro la casta con grandissima energia. Ma come cucciolo di Mussolini non hai antipatia? Sembra il cucciolo di Mussolini. Ma sì, beh, mo fa questi, beh, come un cucciolino che fa degli abbaini, capito? Non è che gli vuoi bene, capito? Non è mica un molosso, capito? Non è un molosso, di quelli che morde, di quelli che si attacca alla giugulare, anzi tu diresti ai maroni, vabbè, diciamo. Sì, ogni tanto dici quattro strafalcioni, ma insomma, è vero, c'è questo effetto che molti si identificano con lui perché... Non c'è perché più, perché è l'ultima speranza. Vabbè, ma è anche perché è considerato l'ultima speranza. Comunque il problema del paese, non è Renzi. Qual è? Il paese sono gli italiani. Eccolo là. Ci voleva la sparata di Forchielli contro gli italiani. Che c'hai adesso contro gli italiani che poi te li nemici tutti? Ormai sono tutti ognuno. Ma io ne leggo, cioè ognuno c'ha la sua soluzione. Ormai anche il consenso è molto frastagliato. Sono molto confusi, sono molto delusi, vedono il futuro nero, confondono, accusano, sono molto dietrologi, non molto informati, anche perché i media ormai in Italia sono finiti, capito? Ormai i giornali stanno aperti perché per i necrologi e gli annunci delle troie, capito? Ma, cioè, la stampa italiana non ha più la forza di tenere un network di inviati all'estero. Per cui non c'è neanche l'informazione. Scusa, non c'è neanche cosa succede nel mondo. I necrologi l'ho capita, mi sfuggiva il secondo motivo. Gli annunci delle trove. Ah, ecco appunto. Adesso ormai, capito, è un po' più chiaro. Gli italiani hanno come gonfi, capito? Sono lì che perdono la bocca di barile. Sì, a Nozze hanno i soldi per un'inviata di Lugano. Se tu apri i giornali, anche i principali, sono tutti a piccoli. Quindi dici non c'è la stampa che fa la cane da guardia del potere. Non c'è, ma anche il telegiornale. Il telegiornale ti parla, ti apre sulla politica, cronaca nera, e poi le fini, e poi dopo cronaca giudiziaria. Questo è il telegiornale, di quello che succede per il mondo, capito? Manco se ne parla. Ma perché? Non è mica colpa loro, non hanno i soldi per gli inviati. È certo. Ma non c'è un solo media che guadagni, capito? Con l'eccezione di Repubblica, credo. Non c'è un solo media italiano di informazione che guadagni. Vabbè, abbiamo sistemato anche questo, l'informazione italiana. Quindi uno per informarsi dovrebbe leggere la stampa inglese, in lingua inglese, però non tutti gli italiani sono in grado. Anzi, quasi nessuno. Sentite anche questo fatto, chi è Fattori? Chi è senatore Fattori? Chi è un uomo, una donna? Di che partita è? Non lo so. Comunque anche lui lei se la prende, dice bisogna tutelare la confessione religiosa, sempre le ferie, così visto che Forchella dice non commentiamo, passiamo oltre, noi lo facciamo sentire. Come segnalato da uno dei senatori di questo lato, la Costituzione tutela le confessioni religiose, quindi propongo, fermo restando l'orario 9:30 mezzanotte, di tutelare le confessioni religiose lasciando liberi il sabato e la domenica. Il venerdì musulmani che non possono, sentite Sisto. Ma lo dico perché sono molto molto sincero. Non si può pensare di fare una riforma così importante come quella del Senato con un lavoro dalle 9 alle 24 senza può, weekend. Senza riforma del Senato, della Costituzione, è così importante. Senti questo, Mannoni di Rai 3. Mannoni, senti, Però Senato ha i lavori forzati, dove si andrà avanti ad oltranza con una sola ora di pausa. I lavori forzati lavorare. Io immagino che sia ironico. Assolutamente, insomma, me lo auguro. Ironico, perché lavorare fino a me. Allora noi che tutte le notti lavoriamo, io forza. Lavoro fino a luna. Insomma, anche Mannoni di fronte a questa senatrice, ma ti rendi conto, Alberto, che discussione? Cioè, i lavori forzati al Senato, secondo i lavori forzati sono un'altra cosa. Che gli italiani che adesso che stanno facendo il pane, che stanno facendo le pizze alle 6:45, che vadano in Ilva a vedere tutto, che stanno facendo il primo turno d'operaio, che stanno facendo il tassista, l'autista, i lavori forzati. Che vergogna. Vabbè. 24 mattino. Alessandro Milan, l'informazione con cui vorresti anche trascorrere il weekend. Milan, un ascoltatore ti ha consigliato di lasciar perdere lo sport e dedicarti alla politica. Io direi il contrario, lascia perdere la politica e dedica allo sport, perché non ci capisci un cazzo di politica. Oi Milan, ma quando sei in ferie chi conduce la trasmissione? Alessandro Milan, una riforma fatta con Berlusconi non può che essere una puttanata. Non ci può che essere il trucco dietro, non può che essere qualche cosa che viene contro di noi. Caro Milan, quando sento dire dai parlamentari che noi siamo un popolo sovrano, scusami se mi viene proprio da cagare. Alessandro, ho visto il Mineo in TV, anche quello lo abbiamo pagato, e molto, troppo, e continuiamo a pagarlo, sempre molto e troppo. Almeno abbia la decenza, ci compri un buon shampoo, antiforfora. Milan, sono Iovine. Ma perché il traffico in diretta continua a dare informazioni sbagliate sulla Salerno-Reggio Calabria? Tutti i giorni ci sono i lavori, tutti i giorni, con tutto quello che c'è ancora da fare, tutti i giorni. Mi sono spiegato, Ciao Alessandro, hai sentito la notizia che la Pasquale ha lasciato Berlusconi? Ma ha lasciato Arcore. Comunque io vorrei fare un appello. Torna, sta casa aspetta a te, torna, si riusce senza te, come può fa, torna Pasqua. Mi sa che qui non sono solo io ad aver bisogno di un po' di ferie, caro Alberto Forchielli. Qua mi sa che il popolo italiano, qualcuno della nostra segreteria, simpaticissimi, ha bisogno di un po' di ferie. Allora, mi chiede Silvia Brasca del TG della 7, ci scrive un tweet per dire: fai questa domanda ad Alberto Forchielli. Allora io sono pronto a fartela. Sei pronto, caro Alberto? Sì. Prima ti faccio però sentire un file della persona in questione, che è Corrado Passera, ex ministro, che dice che noi soltanto nel corso, entro la fine dell'anno, ci costituiremo come forza politica, per cui tutto quello che avviene prima della fine dell'anno non ci può vedere. Allora faremo un partito, questo ha detto forza politica, adesso chiamate a dire partito, ormai fa talmente schifo che anche Passera dice: non farò un partito, faccio una forza politica. Ecco, questa è la domanda di Silvia Brasca. Che ne pensa Alberto Forchielli della mossa di Passera? No, beh, Passera è quello che ha fatto l'Italia, è quello che ha fatto gli eroi, i patrioti, che ci sta costando 6-7 miliardi di euro. Cosa vuoi che ne pensi? Eccola. Un caimano. Cara Silvia, hai sentito? Un caimano, questo è... Ragazzi, ma quello ha fatto quella marchetta pazzesca che ci ha portato in questo disastro. Eccolo lì. Le opere alla Francia la portava via a zero costo. E ricordiamo adesso ulteriori. Ricordiamo la celebre battuta di Alberto Forchielli: tu ogni volta che vedi il simbolo dell'Italia nel mondo... Tocchetti maroni. Ecco, mi tocco. E adesso tre volte che sento parlare di Passera me li tocco pure. Ho capito, ma adesso qua gli italiani ti chiedono: ma c'è mezzo che salvi? Mezzo, ma no uno, mezzo che salvi? Perché dalle 6:30 abbiamo sistemato tutti, da Renzi a Passera abbiamo sistemati tutti. E non ti ho ancora chiesto di Berlusconi, temo già l'idea. E ne salvi mezzo? Beh, sai, Berlusconi l'ho visto. Adesso poi è un po' ingrassato, sì, si ostina a portare qui doppio petti che sembra un sacco di patate. Secondo me non si figurerebbe alla corsa dei sacchi di Loiano. Oh, ma cos'è sta corsa? Me. La conosci solo te? Ah, beh, è una roba che, cioè, se vai nei sacchi, poi fai dei salti. Immaginavo la corsa. Immaginavo quei doppio petti, cioè più largo che alto, capito? E poi c'è quella mania, ho visto l'ultima volta, c'è tutto il revers della giacca pieno di stemmini, tutto un petto pieno di gagliardetti, sembra quei generali russi che fanno quando fanno la parata nella Piazza Rossa, oppure sembra un bisnonno di un Navy Seal, capito? No. Cioè, una roba, cioè ormai... Cosa dice Berlusconi? Con questo direi che chiudiamo. Chiudiamo anche se oggi il Fatto Quotidiano, guardate che c'ha una notizia importante, dice che questo famoso patto del Nazareno è un patto che è stato firmato davvero, non si capisce bene cosa ci sia scritto. Però ti devo fare una domanda seria. Piano, quello non è il patto del Nazareno. Quello è il patto del lazaretto. Dopo c'è solo la sepoltura. Va bene. Ti devo fare una domanda molto seria di economia, di politica economica internazionale, perché oggi tutti i giornali titolano con Padoan, la Cassa Depositi e Prestiti, gli affari con la Cina, l'alleanza coi cinesi sull'energia da parte di Cassa Depositi e Prestiti Reti, quindi Snam Eterna, cessione per 2,4 miliardi del 35%. Che succede, caro Alberto? Aiutaci a decrittare, a capire che cosa sta succedendo dietro questo accordo, che è una cosa buona per l'Italia? Beh, hanno fatto un'asta di fatto, i cinesi strapagano, i cinesi nel mondo o comprano della robaccia che nessuno vuole, oppure per la roba buona strapagano, quindi sicuramente hanno offerto un prezzo molto più alto di altri eventuali concorrenti. Il problema con i cinesi che incomincia sempre bene e finisce sempre male. Aia, in che senso? Cioè c'è la fregatura alla fine? No, all'inizio vedo Brindisi, amici, fratelli. Poi dopo a trattarci, capito, vai avanti te che a me scappa da ridere, io dopo 20 anni ho già dato, lo so. Questo è il problema con i cinesi. Ricordo, ricordiamo caso, tutti. Sono in minoranza, quindi la governance italiana, vedo dei conflitti di interessi, perché China Grid, che è la terna, l'equivalente cinese della nostra terna, ha delle ambizioni internazionali come pure ha China Grid, per cui averla nel consiglio limita un attimo lo spazio di azione di Terna, però penso che lì si metteranno d'accordo. Comunque, ragazzi, avere dei cinesi dentro in società è un gran masacro. Comunque è sempre meglio averli in minoranza su una società estera che in maggioranza. Il diritto italiano è sempre meglio che averli soci in Cina. Ecco. Tra i due mali, siccome strapagano e siamo con le pezze al culo, va bene. Vabbè, insomma, ci riempiono di soldi e li teniamo in minoranza. Questa è la cosa, almeno positiva. Vabbè, di Berlusconi, senti questo Giuliano Ferrara, visto che siamo partiti dalla questione delle ferie, senti Giuliano Ferrara invece, un po' come te, gode all'idea di vedere i senatori lavorare. Pare che si dovrebbe arrivare a una discussione che va avanti dalle 9 del mattino alle 24, cioè a mezzanotte, senza interruzione, senza prevedere le ferie. Ecco, visto che il giornalismo è sempre meglio che lavorare, provo un certo godimento all'idea che Minzolini, Mucchetti e Mineo debbano, da senatori eletti quali sono e da giornalisti, quindi da ex pensionati quali sono, lavorare dalle 9 alle 24 di qui a fine novembre senza interruzione. Vabbè, ce l'ha con Minzolini, Mucchetti e Mineo, no? Tre giornalisti che stanno facendo ostruzionismo in Parlamento alla riforma del Senato, capito, caro Alberto? Sono tre Beh, giornalisti. Senti, io devo dire la verità, adesso, visto che troviamo il cambio di sesso nel matrimonio, ci può anche stare Mineo nel PD, se ormai va bene tutto, ci sta tutto. E dove lo vedresti bene Mineo, non nel PD? Ma sai, Mineo secondo me aggancia l'ombrello dove riesce a trovare mezzi di sostentamento, capito? Eccolo. Per cui c'è Mineo, uno che potrebbe andare ovunque. E abbiamo sistemato anche Mineo, bene. Allora, te lo ricordi? Io ti dico una parola, forse te l'avevo fatto sentire tempo fa, una volta che eri apparso qui al Parlamento, l'onorevole Cesaro, presidente della provincia di Napoli. Ti ricordi? Ti ricorda qualcosa questo nome? Non no, vabbè. Comunque la direzione antimafia di Napoli ne ha chiesto l'arresto alla Camera. Basta che non mi trovi la camorra sotto casa. No, per affari, tra l'altro, con la camorra. E Cesaro era colui che pronunciava in questo inglese fluent, very fluent, il World Urban Forum. È stata richiesta l'arresto per lui, sentite. Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum. Ma non basta. Albertone, l'hai sentito? L'hai sentito? Sì. Adesso però la questione è seria, ne ha richiesto l'arresto per affari con la camorra alla Camera, un altro deputato, e via. Vabbè, si sfoltiscono un po'. Guarda che li rimpiazzano, non è che comunque io la cosa che trovo scandaloso è quella festa che hanno fatto a Ischia, Schettino. Con Schettino, madonna, capito? Ma poi guarda, di Schettino non c'è niente da dire, capito? Ma vogliamo dire qualcosa su quelle babione che si sono fatte fotografare con Schettino al White Party? Cos'è? Subiscono il fascino del capitano? Ma come fa una persona normale a volersi far fotografare sorridente? Che ti devo dire? E probabilmente quelle befane useranno la pasta del capitano per pulirsi la dentiera, non lo so. Con questa però ti devo salutare, Alberto, buone vacanze, ci hai regalato tanto buon umore e ci hai fatto tanti amici, da Padoan a Renzi, alla Boschi, a Boldrini, a Mineo, ce li hai resi tutti amici, ti ringraziamo per questo e ti mandiamo un grosso abbraccione. A settembre, ciao, grazie Alberto, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. E va bene, i soliti problemi a quest'ora delle linee telefoniche con la viabilità, comunque la recupereremo più avanti, state tranquilli che alle 7.45 vi avviseremo della viabilità precisa, via per via, città per città. Comunque, alle 7.18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori, siamo qui per la rassegna stampa, per leggere cosa c'è scritto sui giornali e per raccontarvi che dopo parleremo alle 8.15 di che cosa? Parleremo di questo ingorgo istituzionale delle ferie dei deputati e dei senatori, soprattutto i senatori che dovranno stare ancorati agli scranni tutto agosto perché Renzi perfido ha detto gli italiani non saranno, secondo me, molto scontenti del fatto di vedere i senatori impegnati al Senato in agosto. È perfida questa del Presidente del Consiglio, ma vera, assolutamente vera. E allora si lavorerà, avremo ospite il sottosegretario alle riforme Luciano Pizzetti, avremo ospite Sergio Rizzo dal Corriere della Sera, dalle colonne del Corriere della Sera, più volte invocato l'importanza di fare poche ferie da parte non solo dei deputati e senatori, ma anche degli amministratori dei ministeri, perché ci sono tanti decreti attuativi da fare. Insomma, questa Italia che si blocca per un mese e più è un'Italia che non va bene. Parleremo di questo, parleremo del decreto che si sta approvando, convertendo al Senato il disegno di legge, per la verità, sul carcere, perché ci sono grandi dibattiti su come alleggerire la pressione dei penitenziari. Ieri ho assistito a un dibattito parlamentare molto acceso su questo. Tanti temi, avremo ospite anche Cosimo Mele, ve lo ricordate? Oggi fa il sindaco a Carovigno, in provincia di Brindisi, ex deputato dell'UDC, che ha detto: mi dovete chiamare onorevole anche se non lo è più. Questione di titoli. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani. Titoli invece dei giornali in questo giovedì 24 luglio. Il Sole 24 Ore apre con una previsione sull'economia molto negativa. Made in Italy in affanno, frenano le esportazioni, sono i dati del Centro Studi Confindustria sotto il titolo La lunga crisi. E poi l'ingorgo istituzionale invece la fa da padrona sugli altri quotidiani. Corriere della Sera: il Senato litiga sul voto segreto, discusse tre modifiche su 7.850. La Repubblica: paralisi Senato per le riforme, rischio rinvio a settembre. La Stampa: stallo riforme, PD contro Grasso, il Colle, la paralisi grave danno. Il Fatto Quotidiano se la prende proprio con Napolitano. Napolitano fuori controllo, commissari a Senato e CSM. Per il giornale: Renzi appeso a Berlusconi, questo è il titolo. Il Messaggero invece: paralisi Senato, PD contro Grasso. E invece l'Unità: grave la paralisi del Senato, sono le parole di Giorgio Napolitano. Il Libero invece, come quotidiano, ha un titolo sull'Alitalia: compagnia Colabrodo, chi vola gratis in Alitalia? L'azienda ha 2 miliardi di debiti ma fa viaggiare a sbaffo parenti e compagni degli ex dipendenti, insomma migliaia di persone. Ma voglio partire dal leggere che cosa? Voglio partire dalla Stampa. Perché la Stampa fa un interessante articolo con Francesco Grignetti a pagina 7, in cui si racconta tutte le opere che sono rimaste incompiute in Italia, gli interventi iniziati e mai portati alla conclusione. Era una delle prime idee di Matteo Renzi, scrive Grignetti, per sbloccare l'Italia. Aveva scritto agli ex colleghi sindaci, gli aveva chiesto: segnalatemi una caserma bloccata, un immobile abbandonato, un cantiere fermo. E le risposte sono arrivate da tutta Italia, o meglio da quasi tutta Italia. La Calabria è l'unica non pervenuta. Al Ministero per le Infrastrutture c'è ora un database con 628 opere incompiute. Il governo deve decidere che fare. Finanziare per 99.000 euro il completamento della piazza di Ottati in provincia di Salerno, che risulta ancora da iniziare, o concentrare la spesa per opere più complesse tipo il mini metro tra Pincetto e Monteluce, innovativa via ferrata di Perugia, opera a 140 milioni che risulta costruita al 67,42%. E così c'è l'elenco: carceri abbandonati, il bocciodromo comunale di Rivoli, Torino, che risulta completato al 58,94%, la ristrutturazione non ultimata della cappella di Sant'Antonio da destinare a centro anziani, archivio storico, nel comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, in provincia da Frosino, in provincia di Frosinone, opera quasi finita, visto che sei al 91,48%. Insomma, il governo deve fare questa scelta, però non è affatto convinto, scrive La Stampa, che si debba procedere a testa bassa. Qualche opera potrebbe essere salvata, qualcuna no, qualche altra in accordo con gli enti locali potrebbe cambiare pelle in corsa. Dice il vice ministro Nencini, esaminiamo l'elenco senza pregiudizi. Però ci si chiede, è bene procedere con la casa per anziani e disabili di Montalbano Ionico in provincia di Matera? Probabilmente sì, visto che è completata al 97,68%. Lo stesso si può dire per il laboratorio di sanità pubblica a Biella, realizzato per ora al 39,56%. Poi però c'è il caso di strade non completate, di opere appena iniziate, di opere non ancora iniziate, come per esempio l'idrovia Padova-Venezia, considerata una grande opera, costa 416 milioni, ma non è mai stata iniziata. E allora ha senso finanziare dall'inizio un'opera allo 0% di realizzazione, oppure è meglio concentrarsi sulle opere come il parcheggio a Pistoia, concluso al 98% e quindi manca quel 2% per finirlo? Beh, interessante comunque questo elenco di proposte arrivate al governo, che La Stampa mette a pagina 7, le opere incompiute. E poi è molto interessante, purtroppo non positivo, lo sguardo internazionale che molti giornali danno a quello che sta succedendo in Iraq. Voglio raccontarlo attraverso due pagine. La prima è di Avvenire. Camille Eid racconta a Mosul quello che sta avvenendo nel nord dell'Iraq, dove si è insediato il califfato dell'orrore. Così Avvenire mette questo a titolo, a fianco tra l'altro una foto terribile, l'esecuzione shock, l'immagine pubblicata su un blog e ripresa dai movimenti islamici di Lovagno in Belgio, risalgono al 6 giugno e ritrae questa foto pubblicata da Avvenire a pagina 4, la crocifissione di Ahmad Azizi, condannato a morte dal tribunale dell'ISIS per arruolamento volontario nell'esercito alawita di Assad in Siria. E racconta Camille Eid, definire legge della giungla sarebbe clemente quello che sta succedendo in Iraq. Nei pochi mesi intercorsi tra la sua occupazione della provincia siriana di Raqqa e quella irachena di Mosul, l'ISIS di Abu Bakr al-Baghdadi ha riportato buona parte del Medio Oriente indietro nella notte dei tempi. Sopra la testa di milioni di persone che vivono nei territori del califfato pende la spada di leggi oscurantiste che ricorda da vicino quelle imposte dai talebani afghani. Sono stati pubblicati 16 punti ai quali si devono attenere tutti coloro che vivono nella zona, tra questi la proibizione di ogni forma di politeismo, la pena di morte per l'apostasia dall'Islam, l'obbligo per ex poliziotti e militari di fare pubblica dichiarazione di pentimento, il dovere per i musulmani di osservare le preghiere, il divieto di consumo di alcol e tabacco. Per le donne devono restare in casa, uscire solo se necessario, devono provvedere alla stabilità del focolare. Senza parlare per restrizioni a sarti, parrucchieri, cliniche, negozi di abbigliamento. Insomma, si segnalano anche moltissime donne che sono state infibulate e si segnalano appunto crocifissioni. Un regime che ricorda quello dei talebani, anche l'Unità si dedica con Umberto De Giovannangeli a questa vicenda. Orrore in Iraq, infibulazione per le donne da parte dell'autoproclamato califfo Abu Bakr al-Baghdadi, mutilazioni genitali per le ragazze dello Stato Islamico da Aleppo a Mosul. Secondo l'Unità, 30 bambine sarebbero già state sottoposte a questa orribile pratica. Noi spesso ci arrabattiamo, discutiamo del Senato, discutiamo delle ferie dei senatori, discutiamo giustamente, ognuno pensa poi alle proprie preoccupazioni, al lavoro che manca, all'economia, ma questa è davvero una cosa che fa spavento e che avviene nell'Iraq, nell'Iraq dove siamo andati a fare la guerra, in quell'Iraq lì. Vabbè, torniamo per un attimo in Italia. Prima della pubblicità vi voglio raccontare il piano che era stato anticipato qualche giorno fa dai giornali e ora viene esposto meglio del direttore generale della RAI, Gubitosi, che ieri ha illustrato il piano per l'informazione al Consiglio di amministrazione della RAI. Marco Mele racconta qual è il piano del direttore generale della RAI. In particolare due grandi redazioni per tutti i telegiornali. Da una parte una redazione che comprenda TG1, TG2 e Rai Parlamento, la seconda composta da TG3, Rai News e le testate regionali più informazioni stradali, meteo e web. I marchi storici resteranno in video, a realizzare i relativi TG saranno due grandi redazioni. L'obiettivo? Accrescere le risorse giornalistiche dedicate al prodotto, in particolare all'approfondimento. Si ridurrà così il numero dei direttori e Viale Mazzini ci si chiede a chi toccherà. Saranno vice direttori, coordinatori e conduttori a dover differenziare i prodotti. Questo è il piano che, secondo Gubitosi, dovrebbe avvicinare la RAI più alla BBC. Questo lo trovate come dettaglio a pagina 12 del Sole. A proposito di RAI, sembra spuntare un nome per la conduzione di Ballarò al posto di Floris, che è andato sulla 7, e racconta Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano a pagina 9, in pole position ora c'è Massimo Giannini, che attualmente è vice direttore di Repubblica, spesso tra l'altro anche ospite nel Ballarò di Floris. Ballarò, la RAI corteggia Giannini per il dopo Floris, si sarebbe dato 48 ore per decidere, ci sarebbe una richiesta precisa. Vianello, il direttore di Rai 3, racconta Carlo Tecce del Fatto Quotidiano, ha pensato a Massimo Giannini, che negli anni è stato pensato per altri incarichi in altri giornali o telegiornali, ma Giannini, vice di Ezio Mauro a Repubblica, non si è mai mosso dal quotidiano. Questa però, racconta il Fatto, potrebbe essere l'occasione buona. Sarà Massimo Giannini, 54 anni, vice direttore di Repubblica, a condurre Ballarò da settembre. Lo scopriremo vivendo. Intanto la pubblicità. Alessandro Milan, il ciupa ciupa dell'informazione. Oh, siamo qua alle 7:32 minuti. Dopo una brevissima pausa pubblicitaria, siamo qui a continuare a leggere i giornali. Concentriamoci su quello che sta accadendo al Senato, ne parleremo anche alle 8:15 perché c'è uno stallo abbastanza netto, abbastanza incredibile. Ne volete una dimostrazione plastica? Sono stati votati ieri 3 emendamenti su 7.850. Con questo ritmo, battuta colta dal Corriere della Sera al Senato, approveremo il tutto entro Capodanno, sì, ma del 2016. C'è questo ostruzionismo. C'è anche uno scontro netto tra il PD e Pietro Grasso, tanto che il Presidente del Senato ieri è andato a consulto poi da Giorgio Napolitano, dal Capo della Repubblica, per discutere di questo impasse, di questo stallo, e racconta il Corriere della Sera a pagina 4 e a pagina 5, è il giorno dei veleni, delle accuse incrociate, dei giochi del cerino più o meno velati, il giorno in cui il capogruppo del PD Zanda litiga col presidente del Senato, anche lui del PD, Pietro Grasso, che poi sale al Quirinale per un consulto con Napolitano. Approvati 3 emendamenti su 7.850. Auguri, come scrive Ernesto Menicucci nel suo report, nel suo racconto da Palazzo Madama. Infatti c'è questa battuta appunto a Palazzo Madama: ce la faremo per Capodanno del 2016. Ecco, a un certo punto Pietro Grasso è andato da Giorgio Napolitano e, come racconta Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, pagina 5, Napolitano fa il mediatore, ha fatto l'ennesimo appello a tutte le parti contro la paralisi decisionale, definita un grave danno al Parlamento. Ciò che fa dire al Fatto Quotidiano in prima pagina: Napolitano è fuori controllo, commissari al Senato. E poi anche il CSM, invece, per un'altra vicenda. Sta di fatto che anche Renzi è arrabbiatissimo con Grasso. Secondo Repubblica, Renzi viene definito furioso con il presidente del Senato, che in qualche modo non sta agevolando questa riforma, che secondo Renzi dovrebbe viaggiare in maniera spedita e che invece ora è impantanata soprattutto anche sulla richiesta del voto segreto. Su alcuni punti è stato deciso da Pietro Grasso che ci sarà il voto segreto. Ecco allora che c'è il retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 6 e 7 di Repubblica. Scrive Goffredo De Marchis, il titolo è questo: il piano B di Renzi, se ho garanzie il sì può slittare anche a settembre. Racconta infatti Repubblica che l'ipotesi di un rinvio a settembre a Palazzo Chigi non è più considerata un tabù. Matteo Renzi ha cominciato a prenderla in considerazione, anche se nei suoi discorsi privati continua a pensare che la vera alternativa alla riforma del Senato bloccata dall'ostruzionismo sia sempre una: tornare al voto. Chiedere ai cittadini quel consenso che la burocrazia e i frenatori professionisti vogliono negare al cambiamento. Si narra in questo articolo di Repubblica di un Matteo Renzi furioso con Pietro Grasso, presidente del Senato. Forse pensa di farci qualche scherzetto, avrebbe confidato ai suoi, ma la posizione ufficiale è un'altra, e cioè: manteniamo la calma. Io rimango concentrato sulle priorità del Paese, ancora le frasi attribuite al Premier, che sono le infrastrutture, il lavoro e l'economia. Non sono preoccupato, certo, vedo che si usano mezzucci per fermarci, ma essere preoccupati sono i senatori, perché stiamo riuscendo davvero a fare le riforme. Uno spot migliore per il governo non potevano farlo. Insomma, un Renzi che ostenta calma e soprattutto perfidamente dice: beh, staremo qui a lavorare al Senato in agosto. Non è male questa cosa, anzi. Come racconta Maria Teresa Meli nel suo retroscena, pagina 7, un Renzi che dice: sono convinto che molti italiani saranno felici di vedere i senatori impegnati anche ad agosto. E su questo non ha tutti i torti. Un'ora e mezzo per fare un voto è incredibile. Pare che abbia sbottato così coi suoi Matteo Renzi. Non c'è esempio migliore per dimostrare che il Senato va cambiato. E ancora, dice di Grasso ai suoi: starà con chi vuole fare le riforme o no? Perché è chiaro che gli ostruzionisti non le vogliono. E ancora Matteo Renzi: non mi risulta comunque che Mineo, Minzolini, Mucchetti o Chiti abbiano mai preso un voto in vita loro. Questi sono i frenatori che stanno usando, i mezzucci, altra espressione che comincia a fare capolino quotidianamente dalle parti di Matteo Renzi. Certo che questa cosa delle ferie è davvero spettacolare. Premessa: io, come ben sapete, alla chiusura della 64esima settimana decisiva per la riforma elettorale nonché per l'abolizione delle province, domani andrò in ferie un mese, ecco, giusto perché si sappia, anche se l'ho detto 5.000 volte. Ma questa cosa delle ferie dei senatori che stanno a lavorare è davvero spettacolare e dà il là all'articolo che Mario Aiello scrive a pagina 4 e 5 con la sua penna sopraffina in tutto ciò che succede nel palazzo e dintorni sul Messaggero. Senatori in panico da vacanza. A mia moglie chi glielo dice? La scena più gustosa, scrive Aiello, si svolge nel tardo pomeriggio, quando i senatori si trasferiscono a Montecitorio per votare in seduta comune i giudici costituzionali. Nessuno dei deputati, per non infierire sui visi pallidi dei colleghi senatori, che pallidi resteranno, ha il coraggio di chiedere all'amica o all'amico senatore cosa fai quest'estate? E certo, perché ci sono i deputati che vanno in ferie e i senatori, poveri sfigati invece, che devono stare ancorati agli scranni. Non glielo domandano per evitare di sentire la lagna e i singhiozzi. Niente vacanza, mi tocca stare inchiodato al mio scranno, anche a Ferragosto. Colpa di Renzi, aggiunge qualcuno. Renzi la colpa se la prende con piacere e affonda il coltello nella valle di lacrime. Quest'estate lavoreranno in tanti, dice Matteo Renzi. E allora questo panico da vacanza, sentite Antonio Razzi, ho prenotato una settimana in Spagna per il compleanno di mia suocera il 17 agosto, mia moglie è già lì, ma se salta questa vacanza è anche meglio. Sa come si dice dalle mie parti? Sparagno e comparisco. Vedo che anche i grillini in realtà sono scocciatissimi per questo tour de force. E poi c'è il senatore Malan che si lamenta e dice: io ho una figlia di un anno e sarebbe giusto portarla al mare. Anche i figli degli operai al mare ci vanno, e lo so bene che io sono figlio di un papà appartenente alla classe operaia. Lui sulla spiaggia mi portava e io non posso fare la stessa cosa con la mia piccola. Non mi dispiace per me, mi dispiace per lei. Poi ci sono gli affranti, i forzati delle non ferie, i separati. Uno di questi dice al Senato: non ho ancora avuto il coraggio di dire alla mia ex moglie che non posso portare i figlioli da qualche parte. Quella mi sbrana. Singhiozzi così. Mario Aiello, pagina 4 e 5 del Messaggero. Noi ne discuteremo alle 8:15. A proposito di cedere o tener duro, il presidente del PD Matteo Orfini fa un'intervista sull'Unità a pagina 3 a dire: senza riforme elezioni inevitabili, Sel, se continua così, addio alleanza. È un Orfini molto duro che dice, per esempio, sul tema dell'elezione diretta del Senato: è un tema superato, si è discusso a lungo ed è uno di quei paletti su cui la decisione è già stata presa. Insomma, se la situazione rimane questa, senza riforme, le elezioni sono inevitabili. Berlusconi, secondo Repubblica, dice, scrive almeno Carmelo Lo Papa, pagina 9, ai suoi "così Matteo va a sbattere", c'è una fretta indescrivibile ed è una fretta rischiosa anche per lui, anche se l'articolo più interessante tra Berlusconi e Renzi lo scrive oggi il Fatto Quotidiano a pagina 4. Fabrizio D'Esposito racconta che, secondo indiscrezioni e secondo fonti molto autorevoli, il patto del Nazareno, il famoso patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi del 18 gennaio scorso, è un vero e proprio patto scritto e firmato da Renzi e Berlusconi in persona. Eccolo qui, il patto del Nazareno è scritto e firmato, ma top secret. Sono tre, secondo il Fatto Quotidiano, i punti dell'intesa: Senato, Italicum e riforma della giustizia. C'è una firma di entrambi, visto che rimasero faccia a faccia 7 minuti, lui, Berlusconi e Renzi. Cosa si dissero e cosa firmarono è top secret, ma secondo il Fatto c'è proprio un vero documento. Mentre invece c'è subbuglio alla Camera, perché hanno arrestato Galan, ma c'è un altro per il quale è stato richiesto l'arresto. In questo caso si tratta dell'ex presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro. C'è poco da scherzare anche col suo inglese maccheronico, di cui abbiamo discusso e parlato tante volte, perché secondo la direzione di settore antimafia di Napoli, Cesaro parlava e parla direttamente ai boss e pagava 50.000 lire, di vecchie lire immagino, per ogni voto. L'accusa concorso esterno alla camorra, alla mafia, alla criminalità organizzata, è stato chiesto l'arresto e dunque nuova richiesta d'arresto per un deputato alla Camera. Cesaro di Forza Italia dice: la Camera voti sì, così mi potrò difendere. E questo staremo a vedere, il tempo ovviamente sarà, la richiesta andrà immagino dopo le ferie. Parli di una richiesta d'arresto e spunta Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno, oramai questo modo di così introdurmi mi pare diventato po' stantio, se posso dire. Capisco che sei prossimo alle vacanze. Va bene, va bene. Senti, cambierò. Hai mica 12.000 euro? 12.000 così? 12.000 in tasca euro. O mi dai tempo di andare un attimo a casa in banca? Non lo so. Il problema è che anche io dovrei averli, insomma tutti i contribuenti italiani dovrebbero averli, perché leggendo oggi sul Sole 24 Ore, dunque Equitalia, la società di riscossione come sai, deve recuperare 475 miliardi. Allora Cristiano Dell'Osto e Giovanni Parente hanno fatto i conti, sarebbe come se ogni contribuente avesse 12.000 euro di debito. Quindi se hai per caso 12.000 euro, cominciamo dai tuoi 12.000, perché da qualche parte bisognerà cominciare. Esatto. Non è la peggiore notizia i 12.000 euro, Alessandro. Ma ce n'è di più. Il 25% di questi 475 miliardi, mal contati 120 miliardi, miliardi, non sto parlando in lire, miliardi di euro, e ecco, sono a carico di soggetti falliti, cioè insomma saranno difficilmente esigibili, come si dice con un eufemismo, cioè non si sa se li prendono più, se si possono incassare. Quindi ci stiamo perdendo più o meno 120, anzi vedo qua 121,5 miliardi di euro. Vabbè, tutti i particolari, indovina un po' su che pagine oggi del Sole 24 Ore. Credo di norme e tributi, così ecco, molto, molto bravo. Tra l'altro, scusa, un momento di radiofisco, c'è uno spiraglio per la proroga del 7 e 70. Perché calmi. Ieri ci dicevi di calmi. Non fare semplificazioni giornalistiche, che infatti poi se la prendono con noi. Non c'è la proroga ancora, c'è uno spiraglio, ma ci stanno pensando, così almeno è stato detto ieri. Mamma mia. Siccome però il termine incombe, perché settimana prossima scade, speriamo ci pensino intensamente. Te lo possono dire anche 22 ore prima dello scadere, no? Sì, certamente, però ecco, ti posso dire, c'è uno spiraglio, raccomando, non ingeneriamo speranze poi fallaci, perché sarebbe un peccato. No. E c'è qualche spiraglio anche, ma forse non così consistente, tra l'Italia e Poste, leggevo appunto questa volta dalle pagine di Finanza del Sole 24 Ore, caro Alessandro, perché Sole 24 Ore va letto tutto, e poi per le tue ferie, mi raccomando, tu sei in ferie settimana prossima. Sì, sono in ferie. In realtà, nonostante adesso lo devo svelare, sono in ferie per 24 mattino, ma c'è Platone con Leonardo Manera sabato alle 9 e su quello invece lavoro. E quindi è un presidio che mantieni, perché sono le settimane decisive. Esatto. E non potevi certo non essere presente nelle settimane decisive. Va bene, dalle tue ferie, però guarda che su Sole 24 Ore da martedì cominciamo una serie di 25 puntate, 50 argomenti di guida pratica alla famiglia. Ma se oggi su Sole 24 Ore leggi la pagina di commenti e inchieste, trovi tutte le spiegazioni, ci sono le vari argomenti che verranno trattati, che vanno dalla colf ai fondi pensione, alle pensioni tu cure e così via. Insomma, è molto lungo. Sono 25 argomenti, adesso non abbiamo tempo. E allora invece abbiamo tempo per ricordare che abbiamo inaugurato la Brebemi. Qualcosa si muove, e quindi... perché parlo della Brebemi proprio adesso? Perché? Perché devo dirtelo. Traffico. Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Oh, e allora, cari ascoltatori, per continuare sui problemi giudiziari legati ai parlamentari, c'è una vicenda che riguarda Giancarlo Galan, perché ora che è stato votato l'arresto per lui e si trova al carcere di Opera, anche se i suoi legali hanno chiesto gli arresti domiciliari, c'è un giallo. A questo punto postumo, la sua cartella clinica è stata richiesta dai PM di Venezia, perché i giudici pensano che quel ricovero in ospedale sia stato un ricovero fittizio. La frattura al malleolo di cui si parla sarebbe una frattura vecchia, secondo i sospetti della procura. Insomma, Galan, che era stato giudicato intrasportabile una settimana fa e poi è stato improvvisamente dimesso dall'ospedale il giorno della votazione alla Camera, secondo i magistrati poteva in realtà andare alla Camera proprio per difendersi. E, vabbè, questo è importante anche per la richiesta di arresti domiciliari. E, comunque, C'è invece Repubblica che con un articolo di Salvo Palazzolo racconta del tesoro di Dell'Utri, tre conti bancari scoperti in Libano. Uno intestato al figlio, gli altri due gestiti in prima persona dall'ex senatore che cercò rifugio a Beirut. E sapete che la vicenda di Dell'Utri si intreccia con il nuovo giallo di queste intercettazioni ambientali che sono state fatte da un ex pugile, Gaetano Ferri, che ha intercettato mentre faceva il personal trainer, ha registrato alcune conversazioni con Emilio Fede, che smentisce queste frasi dicendo sono tutte attaccate in maniera posticcia, ma in queste frasi Fede parla di mafia, soldi, Berlusconi, eccetera. Il Fatto Quotidiano ovviamente ci si fionda a intervistare con Davide Milosa Gaetano Ferri, l'ex pugile. Emilio mi disse: Silvio lo tengo per le palle. E c'è tutto il resoconto di questa intervista, di questa chiacchierata del Fatto Quotidiano con questo ex pugile, e la trovate a pagina 4 del Fatto. Vabbè, parliamo di altro. Cronaca: Libero si concentra su Carlo De Benedetti. L'articolo è in prima pagina di Libero, è firmato da Giacomo Amadori ed è un articolo interessante perché si racconta, secondo a quanto risulta a Libero, De Benedetti potrebbe avere guai in vista con la giustizia, e cioè il titolo è questo: Amianto, nuovi guai per De Benedetti. Verso il processo per omicidio colposo e lesioni per la morte di 10 ex dipendenti dell'Olivetti, società di cui De Benedetti è stato vicepresidente dal 78 e presidente dall'83 al 96, da novembre l'inchiesta va avanti senza scossoni, ma ora si attendono sviluppi. Secondo quanto risulta a Libero, l'ingegnere sarebbe in procinto di ricevere un avviso di chiusura indagi, che è una premessa alla richiesta di rinvio a giudizio. Amianto, nuovi guai per De Benedetti, questo almeno titola Libero. Verso il processo per omicidio colposo, però ovviamente staremo a vedere, sono anticipazioni di un'inchiesta. A proposito di inchieste, invece La Stampa racconta con Marco Neirotti la storia da Stresa di questo parroco che è stato di recente arrestato a un coca party. La notizia non è tanto questa, che ormai è datata di qualche giorno, ma la notizia è che questo parroco era già stato denunciato, ma non accadde nulla. Così racconta Marco Neirotti sulla Stampa: in cella San Vittore da 2 giorni, quando il vescovo di Novara annuncia nuovi incarichi per 27 sacerdoti della diocesi. Don Stefano Maria Cavalletti, 45 anni, parroco a Carciano di Stresa, è scampato a un trasferimento che Prudenza consigliava dopo un processo per eredità e offerte concluso con l'assoluzione per 2 episodi, una condanna a 5 mesi per un terzo. In carcere è finito quando in un appartamento di Milano la polizia l'ha sorpreso in pieno coca party, intento a buttare droga nel water insieme con il passaporto. Dice lui: la uso contro la depressione. In realtà, appunto, aveva dei precedenti, è stato definito quantomeno disinvolto. Insomma, era già stato denunciato, ma non accadde nulla, così racconta La Stampa. Vi vorrei anche segnalare che succede sempre, ci sono tanti articoli ovviamente su quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove l'ONU parla di crimini di guerra a Gaza, apre un'inchiesta. L'articolo più interessante che vi segnalo oggi viene da Fabio Scuto. A pagina 14 e 15 di Repubblica si racconta la figura di Mohammed Deif, che è il grande ricercato da Israele nella striscia di Gaza. Chi è Mohammed Deif? È praticamente colui che comanda Hamas. Gli specialisti della Cyber War dell'unità 8200 captano ogni singola conversazione telefonica nella striscia, milioni di telefonate passate al setaccio come il traffico internet. A Gaza decine di spie e collaboratori dello Shabak, il nome che gli arabi danno allo Shin Bet, cioè il servizio di sicurezza interna israeliano, e dell'Aman, i servizi segreti dell'esercito, scrutano, guardano, ascoltano. La loro missione è soltanto una: cogliere un riferimento, prendere Mohammed Deif, il comandante, lo stratega delle brigate e Zedine al-Kassam, il braccio armato di Hamas. Deif è un mito a Gaza, nessuno lo nomina mai, si dice solo lui. E basta, non c'è bisogno di altre parole. Lui ha trasformato in questi anni le brigate da gruppo terrorista a milizia organizzata. È lo stratega del tunnel per colpire oltre confine. E nel vuoto politico in cui trova l'ala politica di Hamas, è lui che comanda nella striscia, dove però da anni nessuno lo vede. Pensate che Israele non ha neanche la foto del suo una foto aggiornata del suo volto, tanto che lo chiamano The Shadow, l'ombra. Eppure sarebbe facile identificarlo, visto che è bloccato su una sedia a rotelle dopo aver perso un braccio e una gamba durante una fallita eliminazione mirata con un caccia F-16 israeliano. Ma è l'uomo più ricercato e più misterioso della striscia di Gaza, Mohammed Deif. Va bene, siamo quasi in chiusura. Vi ricordo che Buffon, che è stato immortalato a baciare Ilaria D'Amico, quanto lo invidiamo tutti, caro Carmelo Lauricella, tu lo invidi? Va bene, insomma, Buffon, che è stato paparazzato, racconta Libero, in realtà ha degli altri guai. Per esempio, perché non salda gli arretrati del condominio di due appartamenti e una villa in un complesso residenziale in Costa d'Azzurra? In Costa Azzurra deve 32.000 euro e gli altri sei proprietari sono costretti a pagare le sue quote. Caro Buffon, ma è vero? Cioè, pare tra l'altro che abbia affittato questo yacht con Ilaria D'Amico 32.000 euro, 36.000 per la verità, per una settimana. E come? E non hai 32.000 euro... È vera questa cosa? È portierone nazionale bianconero, Buffon. E dai, su, se è vero, paga il condominio. 32.000 euro aspettano, così dicono almeno gli altri condomini in Costa Azzurra. Ma è il momento della carta costa. Due pagine del giornale, due pagine, prendendo spunto dal bacio di Alessandra Mussolini, che perdona così il marito Floriani, invischiato in una storia un po' torbida della vicenda delle baby squillo, traditi e contenti? L'idea di perdonare i mariti. Due pagine sul giornale, due, non una, due pagine, due. 24 mattino. Sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, di recente, qualche tempo fa, l'assemblea del Partito Democratico, Matteo Renzi era stato in qualche modo profetico. Io vi chiedo di fare poche ferie. Molto l'entusiasmo. No. Capisco, aveva detto fate poche ferie, poi ci si sono messi quelli che lui definisce i frenatori, i sassi sui binari, coloro che non vogliono le riforme, insomma in particolare la riforma del Senato. Pensate, ieri al Senato sono stati votati tre emendamenti su 7.850 presentati, con questo ritmo battuta colta dal Corriere della Sera al Senato, uno ha detto approveremo tutto per Capodanno, sì, ma del 2016. E così, sedute a oltranza, da lunedì prossimo al Senato si vota dalle 9 alle 24, senza sosta, da lunedì a domenica. Immaginate già le proteste. Renzi, tra l'altro, che perfidamente pare dica ai suoi collaboratori: sono sicuro che molti italiani saranno contenti di vedere i senatori impegnati anche in agosto. E il dramma oggi è immortalato da un articolo di Mario Aiello sul Messaggero, che racconta il senatore che dice: chi lo dice la mia ex moglie che devo portare i figli al mare? O il senatore Malan che dice: mio padre operaio riusciva a portarmi al mare, io senatore non riesco a portare mia figlia al mare. Soluzione pratica, torni a fare l'operaio e magari ferie garantite. Ma al di là delle battute, la questione delle vacanze e della politica è una questione molto seria. Di recente Sergio Rizzo ne ha scritto sul Corriere della Sera. Lo saluto, Sergio, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, perché tu hai raccontato che i palazzi della politica rischiano, come sempre in Italia, di fermarsi, ma fermando proprio il motore di un paese. Per esempio, quanti decreti attuativi ci sono da approvare in questo momento in Italia? Ma guarda, il numero esatto penso che non lo sappia nessuno. Ogni tanto sono le 24 ore fa delle meravigliose analisi da cui salta fuori, mi pare l'ultima erano 800 sì. Provvedimenti che bisognava ancora provare. Sì. E quindi tu dici, perché fermare il motore dell'Italia? Un mese di vacanze, tra l'altro, vorrebbe dire una settimana prima si pensa alle vacanze, una settimana dopo le vacanze c'è il rientro, e quindi questo cosa comporta? Allora, il caso tipico, adesso mi viene in mente, è quello degli uffici giudiziari, no? C'è una legge che dice, che mi pare che dica, una legge degli anni 60, dice che normalmente le sessioni giudiziarie si tengono fino al 31 luglio e poi ricominciano il 15 settembre, quindi c'è, come dire, un mese e mezzo di teoricamente, perché poi, come abbiamo visto in occasione della famosa decisione che riguardava Berlusconi, ci sono anche le sessioni feriali, quindi si può fare anche uno strappo alla regola. Certo. Però il fatto che ci siano delle leggi che addirittura stabiliscono qual è la normalità dell'attività di un ufficio così importante come quello giudiziario, per cui tu alla fine puoi anche vedere certi tribunali chiusi per due mesi, francamente lascia un po' interdetti, insomma. Cioè, questo è un paese che sta ancora funzionando, la burocrazia parlo, e non il paese reale, su ritmi che sono ritmi degli anni 50, degli anni 60, non so, e il Parlamento certo non è esente da questa cosa, tant'è che ora questo è un caso particolarissimo, no, di quest'anno, che ci sono da approvare tante leggi, tante cose, però io ricordo che negli anni passati le polemiche sui giornali perché il Parlamento chiudeva per un mese e mezzo. E come no. Quest'anno pare che non sarà proprio così. Tra l'altro, Sergio, fammi salutare il sottosegretario alle riforme costituzionali e rapporti col Parlamento, il senatore Luciano Pizzetti del Partito Democratico. Buongiorno, senatore. Buongiorno. Lei, come sottosegretario alle riforme e senatore, è pronto a stare? Ma ci faccia capire fino a quando? Cioè, che succederà quest'agosto al Senato? Io intanto inviterei i miei colleghi a non scadere nel ridicolo. Per cui siamo ancora fermi al fatto che il paese si ferma sul modello Fiat degli anni 60-70, il paese è cambiato, per cui i tempi di lavoro e i tempi di ferie vanno parametrati sulle nuove esigenze. Ora c'è un'esigenza di lavoro particolare e questa esigenza va rispettata, al di là del portare i bimbi e non i bimbi in vacanza. Quindi... Detto questo, i decreti attuativi non dipendono dal Parlamento, come lei ben sa, gli 800 decreti attuativi dipendono da atti interni ministeriali. Per quanto riguarda i decreti in scadenza, sono in scadenza i decreti sulla competitività, sulla pubblica amministrazione, sul sistema giudiziario e sulla cultura. Questi sono i quattro decreti che devono essere approvati entro i primi 10 giorni di agosto, pena la scadenza. Quindi questa è la decadenza, per cui questi decreti vanno assolutamente approvati e insieme a questi va approvato il bilancio dei due rami del Parlamento e la riforma costituzionale. Questa che abbiamo messo per ultimo, in realtà, come lei ben sa, non è così obbligatorio approvarla entro agosto. Tanto che ci sono degli obblighi di legge, ci sono degli obblighi politici e soprattutto degli obblighi assunti nei confronti dei cittadini che fanno parte dei programmi di governo. Quindi, secondo lei, questa riforma del Senato va approvata prima delle ferie? Perché già sui giornali si racconta che Renzi è disposto anche ad arrivare a settembre. Io dico che dovrebbe essere estremamente utile e responsabile approvarla entro le vacanze. Dopodiché per me è importante che entro le vacanze vengano approvati gli articoli cuore del provvedimento, che sono esattamente i primi tre articoli. I primi tre articoli. Senta, senatore, lei in un'intervista ad Avvenire non ha neanche escluso l'ipotesi della cosiddetta ghigliottina, quello strumento parlamentare che già tanto ha dato qualche problema sul decreto Banca Italia, ricordate la rissa vera e propria in Parlamento. È davvero ipotizzabile un qualsiasi strumento per togliere tutti questi emendamenti? Guardi, gli strumenti per togliere emendamenti possono essere diversi. Primo di tutto, ovviamente, sarebbe una ragionevole intesa politica. In mancanza dell'intesa politica, nel pieno rispetto ai regolamenti del sistema democratico, ci sono strumenti. Cioè, l'ostruzionismo è lo strumento tipico e legittimo di una minoranza per impedire alla maggioranza di procedere. La maggioranza ha delle sue altri strumenti per contrastare l'ostruzionismo. tra cui anche l'accelerazione, gli accorpamenti degli emendamenti, una serie di procedure. Non si capisce perché l'impedimento della minoranza verso la maggioranza è un atto di profonda democrazia, il tentativo della maggioranza di far valere le proprie ragioni è un attentato alla democrazia. I regolamenti sono chiari, vanno rispettati in tutte le loro istanze, sia quando richiedono l'ostruzionismo, sia quando consentono la linea. Qui Sergio Rizzo, secondo te cosa gli italiani capiscono di quello che sta succedendo come dibattito al Senato? Certamente non si può dire che non sia una riforma importante, questo sarebbe ingeneroso, come non si può neanche dire che sia la madre di tutte le riforme, visto che la riforma sul lavoro, sulla giustizia, sul fisco, forse sono le riforme che potrebbero incidere di più sull'economia e il rilancio di un paese. Gli italiani cosa percepiscono di questa ostruzione e di questo Renzi che vuole andare avanti come un treno in corsa? Ma io per la verità penso che di come sta evolvendo questa riforma del Senato gli italiani non sappiano granché, l'idea che mi sono fatto io, anche perché diciamo era partita con un meccanismo piuttosto arzigogolato, no? Che poi è stato cambiato, poi il dibattito si è avviluppato su questo particolare, se il Senato deve essere elettivo o non elettivo, che però diciamo, mi sembra tanto, come dire, una guerra di posizione politica, cioè più che un aspetto sostanziale, no? Perché per esempio mi viene in mente che in Germania è un paese che diciamo, funziona piuttosto bene, il Senato non è elettivo e questo non ha rappresentato per i tedeschi certo un vulnus alla democrazia, no? Quindi diciamo, su questo aspetto si possono avere tanti punti di vista, ci sono esempi internazionali che funzionano, altri che funzionano meno, ma insomma penso comunque che gli italiani veramente di questa cosa sappiano sono di questa idea. Io non so se sottosegretario Pizzetti possa rientrare nella categoria del ridicolo ciò che la senatrice Laura Bignami, col tutto rispetto, con il rispetto dovuto al fatto che ognuno può esprimere il proprio parere, abbia detto al Senato, ma lo vogliamo sentire quando si è adombrata la possibilità, che poi sarà concretizzata, di lavorare dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 24? Sentite la senatrice Laura Bignami con tra l'altro qualche incertezza, qualcuno che addirittura gli suggerisce una parola in sottofondo, cosa ha detto? Nella Costituzione è previsto il rispetto della minoranza e quindi per quello che riguarda le espressioni di culto, no? Tutti i cattolici che la domenica mattina vanno in chiesa, quindi viene leso questo diritto che penso di avere. Quindi non lo so, almeno la domenica mattina e il sabato per gli ebrei. Poi ci sono il venerdì i musulmani. Gliele suggeriscono, cioè Sergio Rizzo, c'è sottofondo, si sente, non so se ci pensa, gli ebrei e i musulmani. Cioè, ma io non lo so, ma ci rendiamo conto, con tutto il rispetto per le confessioni religiose, ci sono le messe delle 7 del mattino, poi finisce la messa alle 8 e si va a votare. Ma qui c'è un punto, importante, sì. No? Che è il senso di responsabilità, credo. Cioè io penso che chi si assume il compito di rappresentare gli italiani debba avere anche un senso di responsabilità, sì. No? Quando ci sono dei momenti importanti come questo, adesso il sottosegretario ha ricordato una serie di impegni, io per esempio sono del parere che la riforma del Senato sia molto importante, sia forse una delle più importanti in assoluto, perché è quella che consente di finalmente di mettere il paese in sintonia con dei ritmi di lavoro che oggettivamente non ha oggi, no? Cioè ci sono statistiche che dicono che per approvare una legge ci vuole mediamente 350 giorni e non è possibile che per prendere ogni volta una decisione, no? Bisogna fare su e giù con delle procedure francamente molto farraginose, quindi questa secondo me è una riforma per quanto mi riguarda molto importante. Bene, io penso che il momento in cui si chiede diciamo di manifestare un senso di responsabilità importante, cioè ci vuole un senso di responsabilità, sia il minimo. Ma è chiaro, sottosegretario, lei sentivo diceva appunto, cioè la questione, che ne pensa di questo intervento? Per carità, non è che voglio fare parte della categoria del ridicolo nel rispetto delle confessioni religiose, anche perché seguendo compresi i suggerimenti non si dovrebbe lavorare per 3-4 giorni a settimana, quindi facciamo prima. No, ma appunto, poi il suggerimento che gli davano gli ebrei, i musulmani. Del, di se, 7.830 emendamenti ostruzionistici, la gran parte, sono costruiti così. Io ripeto, Ma è chiaro che è una forma di ostruzionismo, certo, ma anche palese, ripeto, non è che è stato detto che l'opposizione ha, e va bene, però consentite a me governo, a me maggioranza, per l'attuazione del programma che ho presentato, di utilizzare gli strumenti che contrastano con queste forme ostruzionistiche. Sarà ben legittimo. Ah, ma certo, è chiaro che è un dibattito parlamentare, quindi di fronte all'ostruzionismo ci sono le possibilità per combattere l'ostruzionismo. Però l'accusa che vi fanno, sottosegretario, è di essere in questo autoritari, cioè fare una riforma costituzionale a colpi di maggioranza e a colpi di autoritarismo. Lei come replica? Intanto i soggetti che sostengono la riforma non fanno parte solo della maggioranza di governo, primo. Secondo, la riforma è in Senato dall'8 di aprile, cioè sono 3 mesi e tot che sta lì. Quindi per quanto riguarda l'accelerazione, le tempistiche, penso che in altri paesi in molto meno tempo si fanno cose. Poi il testo base del governo è stato ampiamente, a mio giudizio, migliorato dal lavoro parlamentare fatto in commissione. Per cui questa accusa di autoritarismo, francamente, mi pare faccia parte di quelle tecniche ostruzionistiche che nulla hanno a che fare con reale. 24 mattina. Allora, le 8:35 minuti, eccoci qua. Come segnalato da uno dei senatori di questo lato, la Costituzione tutela le confessioni religiose, quindi propongo, fermo restando l'orario 9:30 mezzanotte, di tutelare le confessioni religiose lasciando liberi il sabato e la domenica. E va bene, e questa era la senatrice Elena Fattore del Movimento 5 Stelle che ricalcava quello che Laura Bignami, sempre senatrice fuoriuscita però credo dal Movimento 5 Stelle, anzi sì, era del Movimento 5 Stelle, ora fuoriuscita, diceva prima. Non si può lavorare il sabato e la domenica, che poi non si capisce, allora i musulmani il venerdì. E va bene, siamo col sottosegretario Luciano Pizzetti, senatore anche del Partito Democratico, siamo con Sergio Rizzo del Corriere della Sera e ci ha raggiunto Mario Mauro. Buongiorno senatore del Gruppo per l'Italia, benvenuto senatore Mauro, eccoci qua, ci sente? No, vediamo di ripristinare la linea tra un attimo. Allora, a proposito di queste vacanze, vogliamo sentire anche l'onorevole senatore Sisto, anche lui, Forza Italia. Ma lo dico perché sono molto molto sincero, non si può pensare di fare una riforma così importante come quella del Senato con un lavoro dalle 9 alle 24 senza weekend, niente, cioè voglio dire, è così, dalle 9 alle 24. Sentiamone un altro, anche a un certo punto a un dibattito con il Mannoni, Maurizio Mannoni del TG3, esce addirittura la parola lavori forzati, sentite un po'. Leggici libero subito. Libero Senato, hai lavori forzati, si andrà avanti ad oltranza libero, con una sola ora di pausa. Hai lavori forzati, lavorare. Io immagino che sia ironico. Assolutamente, insomma, no? Me lo auguro. I lavori forzati, secondo me, Sergio Rizzo. I lavori forzati addirittura. Vabbè, ci ha raggiunto Mario Mauro, buongiorno senatore. Buongiorno. Eccoci, del Gruppo per l'Italia. Che ne pensa, allora c'è il sottosegretario Pizzetti che l'ascolta insieme a Sergio Rizzo, che ne pensa di questi lavori forzati addirittura titolava Libero? Non è una questione giusta, corretta, laddove c'è una riforma da approvare e ci sono leggi da convertire, decreti leggi da convertire, stare lì a lavorare anche in agosto? Ma io non credo, guardi, che chi ha responsabilità parlamentari, quindi ha responsabilità di fronte alla nazione, debba farsi il problema del calendario, nel senso che tutto il tempo che c'è a disposizione per migliorare le nostre istituzioni e consentire all'Italia di tornare competitiva deve essere usato, quindi se c'è da lavorare lavoriamo. Lavoriamo tutti. Questo vuol dire che il lavoro che si chiede in questa circostanza anche al governo è di cercare di comprendere le ragioni di chi muove delle critiche a questa riforma, perché al di là degli strumenti che alcune forze politiche stanno utilizzando, quindi quelle legate all'ostruzionismo, dal mio punto di vista rimane oggettivo che dei problemi ci sono e se mi è possibile cercherò di spiegare. No, ma certo, adesso li spiegheremo, però a questo proposito c'è, siccome il sottosegretario Pizzetti ha detto tutti questi emendamenti, ecco, lei li ha definiti così, ma lo vogliamo sentire dalla sua stessa voce un paio di giorni fa. Vorrei dare un'informazione certa al senatore Zanda sul costo, cioè su quanto si spende perché tutti abbiano la documentazione. È molto semplice, senatore Zanda. Costa quanto costa la democrazia e quanto costa la libertà fare queste cose. Perché il senatore Zanda si lamentava dei costi per stampare addirittura le pagine di tutti questi 3.850 emendamenti, poi immagino per tutti i senatori o per i gruppi, e lei ha detto questo è il costo della libertà, senatore Mauro, addirittura. È proprio così, è proprio vero e non c'è da stupirsi. Intanto mi corre l'obbligo di fare un saluto affettuoso al senatore Zanda, che è un uomo di grande esperienza e capacità, e proprio per questo, perché come fondamento della democrazia c'è il riconoscimento dell'altro e delle sue ragioni, mi preme mettere in evidenza e chiarire il punto più controverso. Tutti si scandalizzano e ci si allarma perché qualcuno fa di questa riforma un problema di democrazia e di libertà. Ora, trattandosi della Costituzione, vorrei che fosse chiaro di che cos'altro ci dovremmo preoccupare attraverso la Carta Costituzionale se non della democrazia e della libertà. Sì, però... perché sia ben chiaro, no? Guardi, sì, mi lasci continuare, che questa riforma non aggiungerà, nonostante le bugie che vengono dette nel merito, un punto di prodotto interno lordo al nostro paese. Le riforme della competitività, cioè quelle che ci fanno aumentare il prodotto interno lordo e che sono tutte ferme in Parlamento per i problemi interni al Partito Democratico, cioè quella del mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, la riforma del fisco, la riforma della giustizia, quelle aumentano il prodotto interno lordo, perché se ci fosse un modello istituzionale che aumenta il prodotto interno lordo, ci sarebbe stata un'infinità di riunioni del Consiglio europeo per decidere se i paesi europei debbano essere monarchia o repubblica. Sì, sì. Quindi in realtà l'unica cosa di cui si occupa la Costituzione è la democrazia e la libertà, e quindi bisogna essere assolutamente certi che le norme che vengono varate siano democratiche, a restituirci maggiore spazio di democrazia. Ho capito, ma si sta, cioè, senatore, si sta discutendo, sottosegretario Pizzetti, qui ritorniamo alla questione, insomma, se si stia discutendo abbastanza di regole che incidono profondamente sulla democrazia di un paese oppure no, questo è il concetto. Sottosegretario. Guardi, il dato di fatto è il seguente, che in Europa la gran parte dei parlamenti è fatta così. Diversi sono monocamerali, quelli bicamerali, la gran parte, i cosiddetti, quelli rapportabili al Senato, sono, non sono eletti direttamente. La ragione sta nel fatto che la funzione fondamentale democratica di fiducia al governo viene attribuita alle Camere, che sono appunto elette. Quindi quello che si sta facendo qui ora non è nulla di diverso da quello che vige in tantissimi paesi europei. Dunque, dal punto di vista dell'attentato alla democrazia non c'è nulla di tutto questo. Sul tema delle garanzie, se vogliamo affrontarlo e discuterlo anche con Mauro, che è persona arguta e di valore, il tema delle garanzie non passa attraverso l'elezione diretta o indiretta, ma passa attraverso altre funzioni. Ad esempio, qui, quello, ed è stato peraltro migliorato e può essere ulteriormente migliorato, su tutti gli strumenti della democrazia diretta, sì, c'è un'azione incidente ben maggiore di quanto c'era nelle a Costituzione vigente. A proposito dell'elettività, lei mi può confermare, come oggi il presidente del Partito Democratico Orfini dice all'Unità, che su questo non si torna indietro, cioè il Senato elettivo è una questione ormai non più in discussione? Ma guardi, è un problema di modelli, non tanto di testardaggine. Quello che si sta facendo nel raffronto modifica del titolo quinto, composizione del Senato, è di dar vita in Italia alla Camera delle Autonomie, che ha uno dei suoi presupposti nella dinamica di elezione indiretta. Cioè ma è chiaro, cioè il modello scelto è un modello. È un modello di funzionamento del sistema. Ma infatti la domanda era chiara, cioè il modello chiaro, non è più in discussione, cioè il modello Senato elettivo non è più in discussione, si è scelta un'altra via nel modello del Senato non elettivo. Sergio Rizzo, qui la questione, vabbè, al di là delle vacanze, delle ferie, che è una questione molto molto importante, importante, va a discutere anche sulla questione della democrazia, di cui si sta discutendo profondamente al Senato. Però la proposta che tu hai fatto sul Corriere della Sera in prima pagina ha raccolto qualche reazione dal mondo della politica, cioè la proposta di fare per esempio 2 settimane spezzate magari per non rompere quel ritmo di lavoro nei palazzi istituzionali. Ma io penso, per il momento io non ho segnali, diciamo, che questa cosa sia stata, a parte il Senato, no, che sia stata accolta o comunque presa in considerazione. Quello che secondo me mi sembra necessario oggi è mettere il sistema burocratico e istituzionale in sintonia con le esigenze di un paese moderno, cosa che purtroppo non è. Perché la vicenda degli 800 decreti attuativi ancora fermi lo sta a dimostrare, insomma, no? Io adesso non so come sono organizzati gli uffici statali, regionali, comunali, eccetera, però vedo che c'è questo ritmo del mese di agosto che si tira giù la serranda e non si rialza che all'inizio di settembre, se va bene, qualche volta anche dopo la prima decade non va bene. Io, senatore Mauro, per concludere, mi dice i 2 punti o 3 punti che non le piacciono di questa riforma? Uno immagino sia la non elettività del Senato, per la quale però il sottosegretario Pizzetti ha detto non si torna indietro, è stato scelto un altro modello. E poi? Ah, guardi, in realtà quello che bisogna capire su questa benedetta questione è che non ci sono dogmi, cioè il tema dell'elettività risponde a un principio semplicissimo: capire che cos'è il Senato e che cosa fa. Mi spiego. Se il Senato è Camera dei Territori, quindi Camera delle Regioni e inopinatamente anche dei comuni, coinvolgendo nel processo legislativo degli amministratori, ma se comunque è questo, e quindi chi viene nominato o eletto in quel Senato rappresenta i territori e punto, allora non c'è problema sull'elettività. Ma se a quelle persone è affidato anche materia nazionale o addirittura revisione costituzionale, si consentirà che non rappresentano solo la Lombardia o il Molise, ma rappresentano la nazione. Ho capito, allora, senatore, e lei la pensa così? Ma certo, lei la pensa così, ma è stata scelta un'altra riforma, un altro modello, come ci ha detto il sottosegretario. Ma è stata scelta da chi, mi scusi? Se è il Parlamento in commissione scelta, si voterà a maggioranza. Voterà. E per cui lei mi faccia la cortesia di non anticipare la decisione del Parlamento. Ma no, ma ho capito, ma i numeri immagino li conoscerà anche lei, saranno sicuramente maggiori quelli che voteranno per questa riforma quando si arriverà a votare, stando ai numeri, a meno di clamorosi colpi di scena, o no? Credo che sia molto chiara una cosa, che se nel dialogo il governo cercherà di capire le nostre ragioni, fermo restando il fatto che tra queste ragioni ci sono quelle importantissime legate ai contrappesi, cioè nel momento in cui si cambia la struttura di un ramo del Parlamento, siamo sicuri che a questo corrisponda ancora un numero sufficiente di garanzie relativamente al fatto che, e questo è il vero problema della discussione, questa non è una modifica costituzionale qualsiasi, è una modifica costituzionale che si sposa con una legge elettorale incipiente che si chiama Italicum. Per cui è questo che fa saltare il principio delle garanzie. Quando avremo, cioè, con questa modifica costituzionale, un partito o una coalizione che con pochissimi voti si aggiudica tutto il potere possibile e si elegge un Presidente della Repubblica, si nomina tutti i giudici della Corte Costituzionale, è questo che non vi piace. Questo sarà un problema per la democrazia. E questo... credo che noi facciamo bene a ricordarlo, a sottolinearlo. Peraltro, noi non diciamo c'è una soluzione prefabbricata. Diciamo al governo: ragioniamo insieme. In fondo abbiamo ragionato, e anche questo è stato una novità, su un testo del governo. E ancora, teniamo presente che tutto questo viene fatto per sveltire i lavori parlamentari, benissimo, ma io voglio ricordare che sono 20 anni che il Parlamento italiano fa solo decreti del governo. Sì, questo è il mistero vero. È un altro grave problema. Però facciamo così, fermiamoci qui perché ho già sforato con il traffico. Si vedrà poi quando si voterà. Ringrazio il senatore Mario Mauro, ringrazio il sottosegretario Luciano Pizzetti e Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Traffico e poi rientriamo. 24 mattino alle 8:49 minuti. Allora, Simonetta da Genova ci chiama 800 24 0024. Simonetta, buongiorno. Buongiorno. buongiorno. Dica. Ma io, guardi, sono assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento che ho sentito. Cioè il senatore Mauro? Sì, esatto. Sì. Io insomma credo anche che bisognerebbe ricordare che queste riforme vengono fatte da un governo che non è stato eletto e da un Parlamento che è stato eletto con una legge anticostituzionale. Per cui penso che ci vorrebbe molta cautela e il signor Renzi, anziché andare avanti a ricatti, dovrebbe abbassare un attimino la cresta e ricordarsi che si sta parlando di istituzioni democratiche che interessano tutti i cittadini. Non quindi solo non le piace, non le piace questa fretta. Grazie. Grazie. Noi neanche il modo mi piace. Grazie. Vorrei andare a Roma da Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Dica. Niente, io sono... dico esattamente il contrario di quello che ha detto la precedente ascoltatrice, perché io non riesco a capire per quale motivo una volta che si è deciso di varare una determinata di fare un determinato iter parlamentare, per quale motivo gli italiani, io parlo in genere, devono mettere sempre i paletti in mezzo alle persone che vogliono risolvere una situazione precaria che c'è in Italia. Mm-hmm. Ma possibile che siamo tutti allenatori? Cioè praticamente uno vuole dimostrare di essere più furbo dell'altro. Certo. Dimostrato, è stato deciso di fare una determinata cosa. È stato deciso. Lavorare no, certo, è stato quel ragazzo, è stato deciso Giuseppe, poi come ha detto il senatore Mauro, decide col voto il Parlamento. È stato deciso, io posso dire, una riforma. Adesso si discute sulla questione di dire si discute, però poi a un certo punto se la maggioranza la vuole si voti, su questo sono d'accordo con lei, insomma, non si può andare sempre alle calende greche e non decidere nulla. Ma per concludere questa parte di 24 mattino io voglio salutare il sindaco di Carovigno in provincia di Brindisi, Cosimo Mele, dovrei dire onorevole Cosimo Mele. Mele, buongiorno sindaco, va bene? Buongiorno a voi. Perché l'abbiamo chiamata per questa vicenda di un documento interno che lei ci deve o confermare o smentire, nel quale lei ha chiesto ai tutti insomma dipendenti del comune di chiamarla onorevole, perché lei è stato sbagliato. È un documento interno, ma non ho chiesto mai, ha detto mai chiamatemi onorevole, che è una cosa molto differente. Cosa ha detto? Dopo 8-9 mesi che ho fatto che facevo il sindaco, la posta di entrata era tutta posta con il titolo davanti, qualcuno mi ha fatto notare che per garbo istituzionale avrei dovuto mettere il titolo, per cui ho fatto una comunicazione interna che mettesse il titolo davanti al mio nome e cognome. Ma quale titolo? Onorevole? Il titolo di onorevole, perché la posta in entrata è tutta con onorevole. Questo accade a tutti gli ex parlamentari, non vedo lo scandalo perché accade al sottoscritto. No, certo, non è questione di scandalo, ma sa che voglio dire, noi italiani... Scandalo, chiamatemi onorevole, è diverso dal dire, insomma... Per garbo istituzionale bisogna che mi mettiate il titolo davanti, perché la posta in entrata è tutta con il titolo. Cioè lei ha fatto, mi faccia capire, un documento interno di dire per garbo istituzionale, siccome la posta che mi arriva, come per tutti gli ex deputati, è onorevole Cosimo Mele, mettete questo titolo onorevole davanti al nome e cognome. Questo ha fatto... Ha fatto un documento. Questa è la sostanza. Questa è la sostanza. Ma accidenti, ma questa storia dei titoli proprio sono noi italiani. Siamo. Sai che in America Bill Gates si fa Bill, caro Bill, oppure no? Guardi, cioè, guardi chi mi conosce bene e soprattutto chi mi ha letto sa bene quanto io sia indifferente ai titoli. Però quando si occupa un ruolo per dare forza e prestigio all'ente che si rappresenta, qualcuno dei miei mi ha fatto notare questo, ma l'ho fatto senza assolutamente, tanto è vero che quando io firmo la posta il titolo lo sbarro proprio per evitare che ci siano incomprensioni. Nonostante questo mio atteggiamento, diciamo, di garbo, sono stato attenzionato sul chiamatemi onorevole. Ma da chi? Mi scusi. È una frase. No, che lei non ha detto. Che lei non ha detto. No, che lei. Che lei non ha detto, ha detto mettetelo davanti il titolo, ma chi è che gli ha fatto, sì, chi è che le ha fatto notare che c'era questa cosa del titolo? Cioè è una questione da far notare, mi sembra una questione talmente superflua. Io credo che la notizia non sussiste neanche perché, voglio dire, è accaduto a 100 altri sindaci e certo. Nessuno ha sollevato il problema. Probabilmente io appartengo ormai a un prodotto, a un brand che fa notizia e quindi questa cosa Lo so. Passa su tutta la stampa nazionale. Sa perché, no, sa perché sindaco, la vicenda che la riguardò nel 2007 è una cosa della quale non si libererà mai, no? Lo so. Ma probabilmente sì, io spero insomma che quando il processo finirà, visto che gli altri processi sono stati a mio favore, quando il processo finirà, probabilmente spero che nonostante quella vicenda io non sia ricordato solo per quella. Per quella vicenda, perché poi siamo qui in prima fila a cercare di risolvere le problematiche del territorio. Sinceramente, l'obiettivo della comunicazione interna era mirava semplicemente a dare. Cioè, però lei fa questa cosa con scritto onorevole Mele e poi sbarra onorevole perché non lo è più, ma non verrebbe meglio a dire scusate, mandate la posta scrivendo Cosimo Mele, punto. L'unico problema è che quando mi arriva la posta in entrata c'è il titolo e a quel titolo io comunque devo pagare. Già, è questo strano, voglio dire, che uno che non sia onorevole gli arriva il titolo di onorevole. Questo non lo deve dire a me, questo lo deve dire alla Camera. Se il parlamentare che non è più eletto non c'è più il titolo davanti, io ne faccio a meno, benissimo. È chiaro. No? Comunque, per concludere, questa cosa dà più prestigio all'ente, lei dice, onorevole. Penso di sì. Guarda, sa che comunque in risposta per molti italiani onorevole non è poi un titolo di senta, io penso che io vivo in un territorio dove sono ben conosciuto e dopo le note vicende sono stato eletto sindaco. Sì. Non credo perché voglio dire io mi faccia chiamare o meno onorevole. Nel mio paese, nella mia provincia in Puglia mi chiamano per nome, io sono conosciuto più come Mimmo che come sindaco, che come onorevole. Quindi, questa è la cosa che conta di più. Questa è la sostanza, ha sollevato il problema, questo lo sa benissimo, però ancora una volta devo rilevare che la mia persona continua a essere oggetto fa di brand. Una campagna mediatica che com'è che ha detto lei fa brand? Mi apparire per quello che non ma so. No, com'è che ha detto perché lei faccio brand, Cosimo Mele fa brand, fa notizie. Faccio prodotto perché la stampa purtroppo mi attenziona molto. Fa prodotto, va bene sindaco, la ringrazio, buona giornata ovviamente. Cosimo Mele, sindaco di Carovigno, in provincia di Brindisi, e allora con lui ci fermiamo per il giornale radio, ma poi parleremo del decreto svuota carceri che un po' in silenzio si sta discutendo alla Camera. Ieri ho sentito un accesissimo dibattito su questo. Avremo ospite il presidente di Antigone, Patrizio Collella, e poi due deputati, Nicola Molteni della Lega e Vittorio Ferraresi del Movimento 5 Stelle, che sono contro questo decreto svuota carceri, un decreto che prevede, per adeguarsi a quello che l'Unione Europea ci dice, cioè non tenere i detenuti in condizioni di tortura, un indennizzo ai detenuti in queste condizioni. 24 mattino. Sono le 9:06, cari ascoltatori di 24 mattino, come sapete ormai siete abituati al fatto che andiamo avanti fino alle 9:30, questo ancora fino a domani, poi da domani saremo in ferie, per quel che riguarda 24 mattino riprenderemo il 1° settembre. Allora, di cosa vogliamo parlare in quest'ultima parte di 24 mattino? Vogliamo parlare del decreto legge 42 del 2014, cioè il decreto legge che riguarda le carceri italiane, carceri spesso si dice sovraffollate, c'è una popolazione di detenuti molto superiore rispetto a quella che è la capienza naturale, e quindi l'Unione Europea ci guarda, ci osserva, ci scruta e ci sanziona o minaccia sanzioni, perché secondo l'Unione Europea si vive in condizioni di tortura vera e propria se ogni detenuto ha uno spazio inferiore ai 7 metri quadrati in cui vivere. Ebbene, in questo decreto che è entrato in vigore, ma ovviamente si discute molto in Parlamento perché deve essere convertito in legge, stabilisce un risarcimento al danno cagionato dai detenuti che non si trovano in queste condizioni umane, ma si trovano anzi in condizioni di carcerazione disumana secondo i parametri dell'Unione Europea, un risarcimento di sconto di pena di un giorno ogni 10 per i detenuti e di una misura, si sta discutendo di 8 euro di risarcimento per ogni giorno di detenzione in condizioni considerate disumane. È un decreto che raccoglie varie opposizioni alla Camera. Tra chi si oppone ci sono la Lega, saluto l'onorevole Nicola Molteni, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno onorevole. A voi. Così grazie. Come tra gli oppositori c'è il Movimento 5 Stelle, saluto l'onorevole Vittorio Ferraresi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, voi due siete contrari, tra poco ci spiegherete perché. Siccome invece è, tra virgolette, in minoranza, ma sa difendersi benissimo e portare avanti le posizioni dei diritti di tutte le persone, anche dei detenuti, saluto Patrizio Gonnella, presidente della Associazione Antigone. Buongiorno Gonnella. Buongiorno a voi, buongiorno. Ben trovato. Allora Gonnella, perché è giusto, a parte il fatto che ce lo chiede l'Unione Europea, ma perché è giusto occuparsi anche con un risarcimento e anche economico, chiedo, sulla questione dei detenuti che sono in carcere in condizioni disumane? Io parto dall'idea che nessuno dovrebbe essere maltrattato, trattato in questo modo indegno come è avvenuto in Italia per tanti anni. Queste condanne che sono arrivate all'Italia riguardano fatti avvenuti fra il 2009, il 2011, 2008, 9, 10, anni di un'altra gestione politica, quindi, per il quale a un certo punto la Corte Europea dei Diritti Umani ha detto: siccome i ricorsi non sono più 1, 2, 10, sono diventati 1000, 2000, 3000, non è più il fatto che riguarda l'episodio di Piacenza o di Busto Arsizio, ma riguarda l'intero sistema penitenziario italiano, sì. Per cui ha detto: sotto i 3 metri quadri per me è parificato alla violazione dell'articolo 3, quello che attribuisce la tortura e i trattamenti umani degradanti, e prevede un risarcimento la Corte Europea. Nel caso Torreggiani prevede per 7 detenuti quasi 100.000 euro. Ecco. E allora, ma la l'idea è una soluzione a ribasso, È una soluzione a ribasso, 8 euro, però capisce che, voglio dire, l'idea, si immagina un cittadino, io sono d'accordo, e come diceva quel tale, il grado di civiltà di un paese si misura dal grado delle sue carceri, su questo siamo d'accordo, non è che il carcere è una tortura, è un luogo dove si fa un'espiazione della pena, dove si tenta il recupero, che non c'è, insomma, vabbè, tralasciamo questo aspetto, comunque c'è un'espiazione della pena, però non deve essere in condizioni disumane, però l'idea di un cittadino che ci sta ascoltando e pensa alla questione di dare 8 euro anche a ogni detenuto che ogni giorno vive in condizioni disumane, secondo lei il cittadino come la prende? Beh, il cittadino deve capire che noi siamo per un'idea di giustizia che è un'idea di giustizia europea, per cui i diritti vanno tutelati, pace. Solo l'Italia e la Russia sono in questa situazione. Allora, se questo elemento può essere un elemento dissuasivo, perché alla fine come facciamo a convincere il nostro Stato a creare un sistema penitenziario più degno e umano? Tutti ci sono arrivati al governo, tutti, anche il ministro leghista, e non ha costruito un carcere in più, non è riuscito a far nulla, non è riuscito, anzi ha creato quelle condizioni per cui ora stiamo pagando le multe. Le multe le paghiamo per fatti di quegli anni. Perché non si sono, per esempio, costruite carceri. Allora, visto che ha tirato in ballo anche la Lega, si riferisce immagino all'ex ministro Castelli che è stato della Lega, Nicola Molteni, onorevole, lei dirà adesso costruiamo più carceri, però non si è fatto. L'Unione Europea arriva solo alla fine di lunghi anni di inazione da parte di tutti i governi che sono succeduti. Onorevole Molteni, che cosa non le piace di questo decreto? Ma guardi, non mi piace, non c'è nulla di positivo all'interno di questo decreto. Mi faccio però fare due precisazioni. La prima, ce lo dice l'Europa. L'Europa però ci dice anche, ad esempio, tant'è che è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese, perché nel nostro paese, ad esempio, la responsabilità civile dei magistrati non è applicata. Ci chiede l'Europa di applicare, di rendere applicabile la norma sulla responsabilità civile dei magistrati, ma non mi pare che ci sia stata da parte del governo la stessa solerzia ad adeguarsi a questa imposizione da parte dell'Europa, come sta invece avvenendo sulle carceri. L'altra precisazione che mi urge fare è il ministro leghista che citava prima Gonnella, il ministro Castelli. Io voglio ricordare che il ministro Castelli in 5 anni ha stanziato 1 miliardo di euro per fare nuove carceri, tant'è che le carceri che oggi vengono consegnate, le nuove celle in più, sono ancora quelle fatte dal ministro Castelli. Io credo che 8 euro di rimborso al detenuto sia una vergogna, sia una schifezza, soprattutto in rapporto a cosa? In rapporto a quei 3 milioni e mezzo di disoccupati, in rapporto a quei 10 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, in rapporto a quei pensionati. Noi abbiamo 6 milioni di pensionati che vivono con meno di 1000 euro. Però onorevole, è d'accordo anche la soluzione? Sì, è appunto, perché è d'accordo che sia anche una vergogna tenerli in situazioni disumane, anche questa è una vergogna. Ma io infatti dico, guardi, che chi è in carcere, e se è in carcere probabilmente, anzi sicuramente ha avuto una condanna e deve pagare, è sempre visto il carcere, deve pagare col carcere. Sì, tra l'altro non sempre è così, non sempre è così, sappiamo che molti sono in attesa di giudizio, comunque. Però credo anche che chi si incarcera è comunque un essere umano che merita di vivere in condizioni umane. Però non possiamo pensare di risolvere il problema del sovraffollamento. Avviene soltanto in Italia che il problema del sovraffollamento delle carceri lo si risolve mettendo in libertà i detenuti. C'è una questione che nessuno affronta, rispetto alla quale è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Roma. Nel 2010 sì. Il governo Berlusconi, il ministro della giustizia, l'attuale ministro dell'interno Alfano, vennero stanziati 680 milioni di euro, poi divenuti 500 milioni di euro per il piano carceri. In 2 anni dovevano essere realizzate 14.000 celle in più all'interno delle carceri. L'unica cosa fatte. Che oggi abbiamo di quel piano carceri, non solo non sono state fatte nuove carceri, non solo sono state ammodernate e messe in garanzia o meglio in sicurezza le celle che oggi noi abbiamo, strette, piccole, brutte, ma addirittura l'unica cosa che oggi noi abbiamo è un'inchiesta da parte della Procura di Roma su dove siamo finiti le persone, tra cui anche il commissario straordinario delle carceri. Sì, allora diciamo, abbiamo evitato liberazioni e rimborso facendo e ammodernando le carceri. Ammodernare le carceri con i soldi che c'erano, vabbè, è anche questa cosa. Nemmeno, sì, no, ma è chiaro, cioè i soldi erano stati addirittura stanziati e non si sa dove siano finiti. Però è chiaro, diciamo, quali sono i suoi motivi di opposizione. Vorrei sentire quelli del Movimento 5 Stelle, in questo caso l'onorevole Vittorio Ferraresi. Che cosa non vi piace di questo decreto, Ferraresi? Intanto io, a differenza del sindaco, non amo essere chiamato onorevole. Ah, va bene. Come la devo chiamare? Penso che sia un giudizio che verrà dopo. Vabbè, Vittorio Ferraresi, sì, sono d'accordo con lei. Lì prima era il sindaco Cosimo Mele, che insomma, vabbè, dica. Esatto. No, il Movimento 5 Stelle, al contrario, vorrei ricordare anche a Gonnella, che è un amico che non è mai stato al governo e quindi non ha mai potuto risolvere un problema del sovraffollamento carcerario che abbiamo da tantissimi anni, che nei governi di centrodestra, nei governi di centrosinistra hanno mai risolto. Noi cerchiamo di tutelare i diritti dei detenuti che non devono vivere in una condizione disumana, ma anche i diritti delle vittime del reato e delle proprie famiglie. Questo è il quarto provvedimento svuota carceri che il governo Letta e poi Renzi fa in un anno, con l'unico obiettivo di scarcerare persone senza guardare i diritti dei detenuti, quindi alle docce fredde, ai tetti che perdono, ai diritti degli stessi all'interno del carcere, per fare bella figura in Europa e salvarsi da una condanna milionaria, senza assolutamente guardare i problemi strutturali del sovraffollamento carcerario, senza volerli risolvere in maniera definitiva. Quindi assolutamente una presa in giro, una situazione gattopardesca che mette chiaramente i detenuti come merce di scambio e va avanti appunto in questa direzione, ovvero quella di scarcerarli senza trovare soluzioni concrete. Ma su questo, guardi, sono d'accordo con lei, nel senso che è l'emblema dell'Italia, cioè in Italia non si fa mai niente, e cosa succede? Periodicamente ovviamente i detenuti sono cioè il sovraffollamento delle carceri, periodicamente cosa si fa? Un'amnistia, un indulto o questi provvedimenti per sì, risolvere abbiamo il problema dell'emergenza, emergenza rifiuti, emergenze tra 2 anni saremo emergenze. Qui se non si che cosa invece voi proponete concretamente per risolvere in maniera strutturale il problema alla base? Guardi, noi abbiamo proposto un piano carcere napolitano l'anno scorso con cui appunto si puntava alla ristrutturazione delle carceri esistenti e alla costruzione di nuove alcune, ma soprattutto sulla ristrutturazione, che non è stato assolutamente ascoltato. Interventi normativi, soprattutto sul testo unico sugli stupefacenti, perché bisogna guardare chi in carcere c'è, e soprattutto appunto con accordi bilaterali tra gli stati per rimpatriare gli stranieri che scontrano la pena in Italia in paesi come Albania, Romania o Marocco. È chiaro che a queste nostre proposte non siamo mai stati ascoltati, si preferisce agire con la decretazione d'urgenza, che ricordo il precedente decreto legge svuota carceri che è stato fatto dal ministro Cancellieri, ha liberato più di 20 mafiosi e più di 400 mafiosi all'anno, visto che era retroattiva, hanno beneficiato di questo sconto di pena ulteriore. Quindi lo vorrei ricordare anche a chi ci sta ascoltando. La cancelliera stessa, che metteva il suo onore quando noi dicevamo che c'erano dei problemi di trasparenza negli appalti del commissario straordinario sinese, poi alla fine abbiamo visto come è andata. C'è da dire che sulla questione dell'accordo con i vari paesi perché scontino la pena nel loro paese è un problema anche di altro tipo, e cioè che gli accordi si fanno sempre in due. Se un paese un accordo non lo vuole fare, che è un tentativo sul quale spesso abbiamo parlato anche con il sostituto Nicola Gratteri, che è da Reggio Calabria, propone questa soluzione, ma il problema è che se un paese non accetta di ricevere dei detenuti, anche se sono della propria nazionalità, non è che sono come dei pacchi postali, si può lasciare sul confine. Noi abbiamo dato diverse soluzioni, infatti non ci siamo incentrati solo su quella, ma sul problema dell'edilizia penitenziaria, quindi ristrutturazioni delle carceri esistenti, polizia penitenziaria che manca, alcuni padiglioni sono chiusi o per mancanza di manutenzione o per mancanza proprio di personale. Noi abbiamo proposto un emendamento ieri che per assumere 1000 unità di poliziotti penitenziari presi dagli idonei, dai ragazzi che possono già svolgere questo compito, e c'è stato negato. Quindi in questo senso non si vuole risolvere il problema. Sì, il problema si sconta con la questione di soldi, però vorrei sentire da Patrizio Gonnella, che ha sentito le opposizioni di Nicola Molteni e Vittorio Ferraresi a questo decreto. Insomma, ci sono anche delle ipotesi di buon senso, però Molteni dice: i soldi dove sono che erano stati stanziati? Ferraresi dice: assumiamo più personale, ristrutturiamo le carceri, e però tutto questo ovviamente costa, ma sono cose che a voi Gonnella andrebbero benissimo, immagino, no? Ma il problema è che ne sentiamo parlare da 20-25 anni, perché mentre i partiti cambiano, quando noi abbiamo iniziato nel 1985 a occuparsi di queste cose, sentivamo più o meno parole analoghe, e di scandali nell'edilizia penitenziaria ne sentiamo dai tempi delle carceri d'oro di Nicolazzi, e sono passati più o meno quasi tutti. Ricordo anche nell'era Castelli un ingegnere consulente del ministro Castelli che finì sotto inchiesta per questioni relative ad appalti nell'edilizia penitenziaria. Ricordo la società Diche del ministro Tremonti. Quindi noi abbiamo memoria di tutto questo, di che cosa è stata la corruzione nell'edilizia penitenziaria. Però il punto è: che modello penale penitenziario vogliamo? Se ci sediamo a tavolino e iniziamo a dire che noi vogliamo mettere in carcere tutto ciò, non che ci dà fastidio perché è marginale nella società. Pensiamo alla questione delle droghe, per esempio, l'abbiamo trattata come se in Italia il problema della criminalità in Italia fossero i tossicodipendenti, sì. E abbiamo, con la fine di Giovanardi, creato un sovraffollamento pazzesco. C'è dovuta intervenire la Corte Costituzionale per rimettere un po' d'ordine nella questione. So che ci sono proposte diverse in Parlamento, ma noi quello che diciamo, invitiamo a parlare di questo, per esempio, come affrontare in alcuni stati degli Stati Uniti d'America, penso al Colorado, penso alla California, si ha il coraggio di affrontare una nuova politica criminale su questo terreno. Una questione sui detenuti stranieri in Italia. Guardate che ci sono circa 4.000 detenuti italiani all'estero, quindi attenzione, se poi mettono in alcuni paesi la condizione di reciprocità, non il Marocco, perché non sono detenuti in Marocco. Vabbè, ma non vogliamo, mettere i rapporti. Comunque lei poi, tra l'altro, ha citato prima delle inchieste, casi, io non, adesso lei le conoscerà, io no, per cui si assume per favore la responsabilità, che poi mi chiamano, l'ha citato società di Tremonti, Castelli, adesso. La dica. No, lo so, però sa, non voglio dire, io non sono al corrente, non sono addentro a tutte le materie come lei. Cose antiche comunque. Va bene. Sentiamo Claudio da Vicenza, ci chiama. Buongiorno Claudio. Senta, io volevo dire una cosa, sì. No? Le carceri sono state fatte per gli italiani in pratica, no? Sì. Se noi abbiamo per chi commette un crimine in Italia, più che altro, in pratica, che delinquono e sono nelle carceri nostre, sì. Non abbiamo mica colpa noi italiani, cioè la comunità europea dovrebbe farsi carico, no? Prendere una parte, ci sono 20 stati, una parte di questi extracomunitari se le portano nelle sue carceri. Beh, ma ho capito Claudio, il principio è che una si va in carcere nel paese in cui si commette il delitto. Se lei va in America e fa un delitto, viene giudicato in America secondo le leggi americane, non è che la portano in Italia. No, ma così praticamente entrano dentro extracomunitari e praticamente se dopo si delinque le carceri sono mai abbastanza qua in Italia. Vabbè, Claudio, l'unica soluzione è bisognerebbe anche avere un po' di buon senso. po' di buon senso. L'unica soluzione, come si dice, è fare degli accordi bilaterali con i paesi della provenienza dei detenuti, perché scontino la loro pena in carcere. Ma è un accordo con la Romania, si fa con... però se ci sono i paesi che accettano, bene, se no no. Lei, onorevole Molteni, cosa dice di questo ascoltatore? Insomma, è chiaro che se uno commette un delitto in Italia viene giudicato in Italia, adesso non è che può essere preso. Però credo che emerga in modo chiaro, io lo sto percependo in questi giorni, dove tra l'altro a me fa piacere che a Radio 24 si parli di questo problema, perché sembra che ormai il tema della politica italiana sia solo incentrato sul Senato, le competenze, il titolo quinto. Invece sotto banco e nel silenzio complessivo avvengono situazioni come queste. Io credo che 8 euro al giorno, vede la dicotomia qual è di questo governo, la follia di questo governo, che da un lato si danno 8 euro al giorno, 240 euro al mese, 3.000 euro all'anno al detenuto e al criminale. Io tra l'altro vorrei anche far presente che è anche il caso, magari dopo che per 2 anni continuiamo a discutere dei 60.000 che stanno in carcere, ci si occupi anche, per quanto riguarda il sistema della giustizia, dei 60 milioni che stanno fuori dalla carcere. Sì. Quindi da un lato si danno i 3.000 euro all'anno al detenuto e dall'altro lato si sta completamente smantellando la sicurezza dei nostri cittadini, perché è notizia di questi giorni che il governo sta avviando un piano di tagli e di spending review sulla polizia, 1,5 miliardi di tagli alle forze dell'ordine, la chiusura di 300 commissariati di polizia, l'utilizzo di 14 caserme per l'accoglienza e la sistemazione dei clandestini. Sono tutti segnali di una volontà precisa, chiara, inequivocabile da parte del governo di, da un lato, smantellare i presidi di sicurezza. Tra l'altro voglio ricordare, smentendo quello che ha detto ieri il ministro Alfano, cioè che i reati sono in diminuzione, i reati di maggior allarme sociale, furti, rapine, borseggi e scippi sono in netto aumento, ma non perché lo dicono delle mere statistiche. No, ne abbiamo parlato anche con i numeri. Bisognerebbe ascoltare chi oggi non ha subito un furto all'interno della propria... No, ma infatti di questo abbiamo parlato, però lei i costi che ha detto sono interessanti, e vorrei anche sottoporle a Vittorio Ferraresi, perché lei prima, Ferraresi, ci ha detto i costi, assumere persone, personale, e ampliare, ristrutturare le carceri, tutto questo è un costo, e effettivamente i momenti di spending review, nei momenti in cui si risparmia, diciamo, brutalmente anche sul tema della sicurezza, dove proponete di recuperare questi soldi? Ma... sostanzialmente negli sprechi della politica sono sempre stato il nostro cavallo di battaglia. Susseguentemente possiamo anche valutare l'ipotesi di un intervento sul testo unico sugli stupefacenti, che toglierebbe ai magistrati e alle forze dell'ordine, appunto sulle cosiddette droghe leggere, un notevole peso, appunto, per una politica che ormai non ha più senso in Italia. In questo senso potremmo recuperare risorse dall'attività delle forze dell'ordine e dai magistrati, appunto per poi andarle a mettere nelle carceri, oppure per andarle a mettere nel processo penale, che ricordiamo appunto ha dei tempi lunghissimi, ed è questo anche un motivo perché ci sono molte persone in custodia cautelare in carcere in Italia, il fatto che i processi durano 8, 9, 10 anni e queste persone appunto siano strette appunto in carcere senza sapere se saranno colpevoli o meno. Anche il fatto di sottoporre i magistrati di sorveglianza in questo senso a un notevole carico di lavoro, quando l'hanno già, perché stanno ancora smaltendo le richieste di liberazione anticipata speciale del precedente decreto, è una cosa folle, perché queste persone sono persone umane anche loro, che hanno diritto appunto di svolgere il proprio lavoro con tranquillità, e hanno già dato un primo grido d'allarme in quanto non sono in grado di con le attuali forze di riuscire a smaltire appunto queste richieste che vengono fatte. Mi faccia capire, Ferraresi, entro quanto deve essere convertito questo decreto in legge? Il 26-27 agosto, mi pare. Quindi prima delle vacanze, perché assolutamente. Sì. Assolutamente. Sentiamo Mario da Roma per concludere. Mario, un ascoltatore, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti. Io parto dal punto di vista del volontario in carcere. Io sono un volontario in carcere da oltre 15 anni, per cui la mia è un contributo esperienziale, e sono velocissimo. Se il carcere, lo dice l'ordinamento penitenziario, lo dice, diciamo così, la legge in genere, dovrebbe rieducare. Sì. La parola non mi appartiene, perché la rieducazione per me non è. Io punto alla riqualificazione e al reinserimento, che sono valori molto ben più grandi. Ma se con la custodia, appunto, lo Stato si trattiene il mio corpo e il mio vivere è perché ho sbagliato e compagnia discorrendo, mi deve garantire un livello di vivibilità e di civiltà quantomeno minimali. In questo momento purtroppo non è garantito. Non è così. Si fermi qui, Mario, perché sennò sforo. Il suo intervento era chiarissimo. Ringrazio l'onorevole Nicola Molteni della Lega. Vittorio Ferraresi, onorevole, anche se non vuole, del Movimento 5 Stelle, e Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. Ci fermiamo, domani siamo qui puntuali alle 6:30.